tanto siete finiti voi, finiti! Appena prendiamo il potere chiudiamo la zanzara. Siete morti che camminano, morti che camminano! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. All'interno delle moschee, dove si predica l'odio, dove si formano degli aspiranti terroristi islamici, quindi dobbiamo innanzitutto bonificare le moschee già esistenti prima di consentire la costruzione di nuove moschee. Siamo qui, se lo vuoi, e al centro ci siamo noi. Perché vogliamo essere rappresentativi degli italiani comuni. Abbiamo delle persone che possono essere, diciamo, indicate per una celebrità. Ma tu sei un talebano comune, non sei un italiano comune. Ecco. Sei un talebano comune. Comunque, se mi posso io credo che la conduttrice dovrebbe intervenire per questa offesa in diretta. Cari miei, certo, la notizia del giorno sarà sicuramente la condanna in appello del nostro amico, lo dico, del nostro amico Marcello Dell'Utri, a 7 anni, condannato in appello pochi minuti fa, caro Parenzo. Però, Magdi Cristiano Allam, Magdi Cristiano Allam, amico mio! Magdi fu Cristiano Ma sì, ma poi che vuol dire la scia? Vorrei capire bene da te, che te intendi di queste cose di religioni, no? Vorrei capire, sì, un po' te ne intendi. Cosa significa lasciare il Vaticano? Cioè, si sbattezza... No, lasciare la Chiesa Cattolica. Prende a schiaffi quel povero Maurizio Lupi che l'ha portato dal Papa a farsi battezzare. Spiegami, che vuol dire? So, che fare si fa effettivamente molto molto complicato. Io suggerirei di telefonare alla sala stampa del Vaticano. Cioè, diretta. Uno che dice abbandono il Vaticano, che vuol dire? Si sbattezza? No, abbandono la Chiesa Cattolica. Abbandono la Chiesa Cattolica, scusa. È complicato. Però l'inno era bello, eh? Era perché io amo l'Italia, diciamo la verità. Insomma, di che parliamo? Sarà mica un partito che non si è distinto molto in termini di numeri, ecco, nell'ultimo dai, periodo. Dai, su, ecco. Dai. Signor Magdi. E dire che una volta era una persona, diciamo, seria, faceva l'inviato per Repubblica, eccetera. Poi, vabbè, poi... Poi, Beh, poi niente, è finito come è finito, dai, diciamo la verità. Ma cioè, vuole una chiesa, vorrebbe una chiesa che bastonasse l'Islam, troppo aperta alle altre religioni, in particolare all'Islam. Amico mio, sai su. Se lo vuoi. E al centro ci siamo. Però era bello l'inno, non era male in realtà. Molto, ma non si può chiamare per capire un attimo. A chiamare, ce l'ha con noi ovviamente. Non è il solo, non è il ma solo. Lo so, però si potrebbe Dell'Utri, provare. Dell'Utri prima della sentenza, sì, stamattina prima di entrare al tribunale. Poveretto. La politica non è un momento di cui parlarne. Lasciamola svolgere, tanto si sta impantanando da sola, no? Mi sembra di capire. Vedremo. Non sta scorrendo, lo sta cambiando un'epoca. Sta cambiando, per ora siamo nella merda. Poi vedremo. Vedremo. È anche leggermente autobiografico, forse. Ma io vorrò sempre bene a Marcello Dell'Utri, anche se in galera, anche se condannato per concorso esterno e associazione mafiosa. No. Ma voglio dire, senza ironia. A me non me ne frega niente. Mi tirano addosso la merda, i sassi. Non me ne frega niente. Grillo, fuori onda. Ma si può voler bene a uno. Aspetta, stai no? Certo che si può voler bene. Grillo, mi è piaciuto molto Napoleone a te e tu non gli vuoi bene, io sì. Che vuoi? È difficile dire Marcello ti voglio bene, è un po' difficile. Io lo dico, me ne fotto ma lo dico. Grillo, mi è piaciuto molto Napolitano, basta Morfeo. Sì, sì, no, lui mi è piaciuto molto. Allora dobbiamo trovare un altro, non chiamarlo più Morfeo. Dobbiamo trovare un altro. Perché mi è piaciuto molto. Quando conosci poi le persone, quando te le trovi di fronte, no? Come si cambia idea? Si è imborghesito. Beh, per adesso dice no a Bersani, poi vedremo. Beh, intanto la proposta di Berlusconi forse troverà qualche difficoltà dopo questa sentenza a Dell'Utri, forse. È Bersani premier, Alfano vice. Questa è la proposta di Berlusca, eh? Beh, geniale. Senti Razzi, una proposta così? Senti Razzi. Italia. Stupenda, sto inno è meraviglioso. Io amo l'Italia. Io credo che una proposta del genere non si aveva mai avuto. Ma è interessante, una proposta del genere non si aveva mai avuto. Era no? Niente vista Razzi questa. Dove c'è la storia? A me fanno ridere questi del Partito Democratico che inseguono i grillini su tutti i fronti, tutti i fronti. Adesso fra poco vedrete, se ci sarà bisogno, ci sarà l'apertura di Bersani o di qualche deputato del Partito Democratico a Forza Nuova, Casa Pound e forse non so chi altro, altri estremismi vari, perché adesso la Lega è diventata, è diversa da Berlusconi, si può parlare, servono i voti leghisti al Senato, traduzione. Possono servire i voti leghisti al Senato. E poi la TAV. Ci sono fior di dichiarazioni di Bersani, di dirigenti del Partito Democratico a spada tratta a favore della TAV. A spada tratta. Per non parlare dei piemontesi, Adesso da Emiliano fino a Puppato. Sentiamola Puppato, mi piacerebbe la commissione d'inchiesta sulla TAV. La commissione d'inchiesta sulla TAV. La commissione d'inchiesta lanciata ieri dal Movimento 5 Stelle, lei è d'accordo? Anche lei, Emiliano, credo sia d'accordo su questa commissione 5 Stelle. Ma dovrebbe e cosa dovrebbe fare? A me piacerebbe, e credo che sia doveroso, scusami, che la politica prenda le carte, le guardi, analizzi dal punto di vista economico la situazione attuale e capisca quali sono le priorità. Ma siamo qui con il mitologico Don Paolo Farinella, grande ritorno alla Zanzara, dove è venuto ormai un anno fa. Come sta eccolo. Don Paolo? Ma abbastanza bene. Prete della diocesi di Genova, collabora con Micromega, grande anti-berlusconiano. Senta Farinella, ma... Io non sono anti-berlusconiano, io sono sono spudoratamente per la legalità. Vabbè, poi di riporto, di riporto, di conseguenza. E se lui delinque, peggio per lui. Ma perché è un delinquente? Lei lo qualifica? Certo, perché. Lo qualifica come un delinquente. Cioè, com'è Berlusconi? Un delinquente? Certo, da un punto di vista giuridico, sì. Un delinquente, me lo dica, Berlusconi è un delinquente. Sì, lo dico, non mi nascondo mica dietro un dito. No, appunto, ma pronunci queste parole perché è interessante da un prete. Sì, io dico che Berlusconi è un delinquente. Ah, così, proprio, secco. Ma solo perché è stato condannato a... Senza aggettivi. No, è stato condannato già una volta. Sì. E poi non è stato condannato perché lui si è fatto le leggi a suo favore, quindi certo. Signori. Per cui, scusi, un minimo di pudore. Scusi, insomma. Don Farinella, ma se finisse in carcere per lei sarebbe cosa auspicabile? Diciamo che la legge dovrebbe essere uguale per tutti, ma noi in questo momento, da 19 anni a questa parte, vediamo che non è così. Dunque lei sarebbe... Lui deve andare, siccome per esempio in questo momento io ho risposto ad un gruppo di detenuti di Padova, che mi chiedono determinate cose, no? Sì, che ecco, dico, perché per questa gente, per questi ergastolani non deve valere lo stesso principio di Berlusconi, perché questi non possono difendersi come si difende lui? Cioè, secondo lei il posto giusto per Berlusconi in questo momento è la galera? Se i tre gradi di giudizio, come è avvenuto per Craxi, confermano tutto quello per cui è accusato, dovrebbe andare in galera. Scusi un attimo, però per adesso lei dice si è salvato grazie alla legge, dunque ha evitato la galera grazie alla legge. Lui ha evitato la galera, altrimenti... e la sta evitando ancora. Dunque, se non perché fosse... Perché adesso l'Uvite agli occhi gli è passato per andare in piazza in Piazza Santi Apostoli a Roma. Era un mentre po'... lui vita gli viene quando deve andare in Parlamento, quando deve andare in tribunale. Però aveva un po' gli occhi di... ha visto le immagini. Vabbè, ci si può mettere anche un po' di pepe, insomma. Un po' di pepe, dice lei, per fare finta, no? Beh, certo, lo c'è abituato lui. Però non ci ho pensato a questa cosa. Uno... Scusi, padre. No, però un attimo, una conclusione sulla vicenda del carcere di Don Paolo. Sì, scusi, Don Paolo, un attimo, Parenzo, tu sei ebreo, lascia perdere. Parlo padre, però. Scusi, Don Paolo, lei non ce l'ha con gli ebrei, no, Don Paolo, no? Che cosa? Non ce l'ha con gli ebrei. Devi dire così, scusa. No, che ne so, magari ce l'ha con gli ebrei, no? Con gli ebrei? Ma no. Se io sono 40 anni che tengo sul mio altare la menorah ebraica. Ah, meno male, meno male. Come faccio ad essere... Ma questa è una cosa assurda, perché Gesù è ebreo. Meno male, e meno lo male. È per sempre. Meno male. Scusi un attimo, Don Paolo. Ma che c'entra questo? No, ma così, era un inciso. Scusi, Don Paolo. No, è un inciso, lo so, non serve a niente. Scusi, Don Paolo, però lo volevo chiedere. Cioè, se non fosse per le leggi, sarebbe già in galera. Come, scusi? Se non fosse per le leggi ad persona, ma sarebbe già in galera? Ah, io penso di sì. Sì. Penso di sì. Assolutamente. Scusi un attimo, per lei dunque è ineleggibile? Lei ha partecipato alla manifestazione a Genova? Io ho partecipato alla manifestazione che abbiamo fatto a Genova con Micromega, perché certo. con la seconda lattera di Micromega, perché non abbiamo potuto partecipare a Roma. Ah, certo. Io per esempio di sabato non posso muovermi, sì. Però ne abbiamo organizzata qui, c'era davanti alla prefettura, c'era tutta la piazza piena. E lei in prima fila? Girava, piena di ombrelli, c'era la piazza piena. Lei in prima fila? Io c'ero, in prima fila, io certo. C'ero, ma i suoi fedeli, quando lei le dice queste cose, lei dall'altare ogni tanto? Dico, dipende su Berlusconi, ma le dico spesso. Insomma. Le dice spesso, e i suoi fedeli là nella chiesa dove lei officia la messa, come reagiscono? Ma come vuole che reagiscano, quelli che vengono qui da me, penso che abbiano, come dire, anche un senso, lo fanno anche per scelta. Ah, beh, certo. Questa è anche una parrocchia diciamo di fatto senza parrocchiane, per cui chi viene qui viene appositamente a sentire la sua, riesce ad esprimersi, certo. E si trova diciamo in un certo senso rappresentato, no? È certo, in una comunità. Quindi, comunque ci sono state anche delle persone che se ne sono andati via, insomma. Beh, immagino, perché qualcuno, insomma, questo anzi mi fa piacere, perché la democrazia è questa. Certo, Parenzo, che c'è? Cosa vuoi dire? No, volevo chiedere al padre, sì? Non è un esorcista lei, vero? Come? Non fa anche esorcismi lei, padre? No, vero? Che c'entra di esorcismo? No, chiedo. Mica esorcista. Ma cosa c'entra? Ma è ancora fermo a medioevo. Ma esistono. No, come medioevo? Ci sono dei suoi colleghi che fanno fior di esorcismi. Il signor Amor, ad esempio. Il signor Amor, più volte ospite del signor Cruciani. Sì, vabbè, lasciamo gli esorcismi, li lascia ad Amos. Amor, roba. Io annuncio la, come dire, il Dio della Bibbia, il Dio di Gesù Cristo. Le zanzare di casa mia si nutrono di me, quando il giorno scivola via si svegliano per me, quando... Gloria, l'eroe del Guatemala. A proposito, ci sono in piazza gli amici della Valle d'Aosta? Vi do una notizia. Visto che Ingroia ha perso le elezioni e vuole tornare in magistratura, ma siccome si era candidato in tutta Italia, tranne che nella vostra regione, hanno pensato bene di mandarlo da voi in Valle d'Aosta. E io ho un'indiscrezione sulla prima inchiesta che farà sugli stambecchi del Gran Paradiso. Ha già un sacco di intercettazioni e anche uno stambecco pentito che ha rilasciato le prime confessioni. Passioni e vanità. Quando tutto Dell'Utri, 7 anni, avrebbe avuto per 30 anni rapporti con Cosa Nostra, arrivando anche a un patto per proteggere Berlusconi. Don Paolo Farinella, secondo lei Berlusconi è un mafioso? Come? Secondo lei Berlusconi è un mafioso? Sicuro. Ah, sicuro. Però ci vogliono le sentenze della magistratura, scusi, Don Paolo. No, dico, io leggo le notizie che ci sono, per cui per mio è un giudizio morale, non può essere un giudizio, diciamo, penale. è un giudizio morale e i fatti sono talmente evidenti che lei lo considera un mafioso morale. Poi basta vedere. Sì. Adesso ne abbiamo avuto la notizia adesso del suo sodale, quello che l'ha messo in piedi, insomma. Senta, se il PD facesse un governo con Berlusconi, per lei cosa accadrebbe? No, non si può fare, non si deve fare, ma secondo me nemmeno con Bersani si deve fare un governo. In che senso? Nel senso che in questo momento, visto come si trova il Parlamento, i numeri, sì. Secondo me il Presidente della Repubblica dovrebbe presentare una figura all'esterno, non un tecnico, figura esterna, di una figura morale riconosciuta, indiscutibile, con un governo di 10-12 persone che senza contrattare con i partiti mette all'ordine del giorno 3 provvedimenti economici e 4 riforme, diciamo la legge elettorale, il conflitto di interesse, l'ineleggibilità di Berlusconi, si vada al Parlamento, offra quello che deve offrire al Parlamento e poi voglio vedere chi ma lei chi ha votato lei, Don Paolo? Guarda, io ho votato alla Camera Grillo. Sì. E alla Camera Grillo e al Senato ho votato Vendola. Ha votato Vendola. Vabbè, alla Camera gli è andato bene, al Senato gli è andata meno bene, diciamo. Certo. Scusi un attimo, Don Paolo, ma come si fa a uscire? Non gli chiediamo niente. Come si fa a uscire dalla Chiesa? Ha sentito Magdi Allam che vuole uscire dalla Chiesa? Sì, ho sentito, ma lui non c'è mai entrato nella Chiesa. È stato battezzato da Ratzinger. Vabbè, cosa vuol dire? Battezzati sono tutti quelli che ti fanno battezzare, ma entrare nella Chiesa non vuol dire semplicemente fare delle cose così, tra l'altro anche di natura mediatica. Entrare nella Chiesa significa entrare nello spirito. E invece lui? Nella cultura, nella mentalità, significa assumere la parola di Dio come criterio della vita, il concetto di cattolicità, ho capito. Il concetto di universalità. Fa ad entrare nella Chiesa uno che esclude quasi un miliardo di persone? Cioè gli islamici, dice lei. Scusi un attimo, Don Farinella, ma ha visto tutta quella gente in Piazza del Popolo davanti a Berlusconi? Tutti coglioni, tutti cretini, no? Beh, io direi che c'è un sacco di... No, assolutamente non... Dico, probabilmente non sono informati correttamente di quel... Cioè, quelli... A parte il fatto che una buona parte sono stati comprati con 10 euro... Prezzolati, per cui questo già squalifica assolutamente. Vabbè, ma saranno stati pochi quelli, Don Paolo, su... No, chi lo dice? Ce ne fosse stato uno solo, quella manifestazione è inquinata. Anche uno solo. Vabbè. Tanto per lei dove c'è Berlusconi significa che c'è. Significa che è abituato a comprare la gente, a comprare se le comprate anche in America quando è andato al congresso. Come si è comprato la gente in America? Ha fatto riempire per il congresso americano per averlo pieno per le sue televisioni. Ma erano deputati e senatori. Ha preso i figuranti. Ma come no? Scusi, ma lei mi dica la verità, Don Paolo. Informatevi bene. Ma adesso ci informiamo. Lei darebbe adesso una cosa interessante, lei è un prete, l'estrema unzione, per carità, chissà quando accadrà, a Berlusconi la darebbe oppure no, oppure non se la merita nemmeno quella? Sì, io anche subito gliela darei l'unzione degli infermi con un bulacco d'olio da annegarlo, glielo darei subito. Ma no, come subito? Cioè lei spera che gliela darei subito io. Lei spera che crepi? Come? Lei spera che crepi? Sì. E diciamo che se lo facesse ci libererebbe da un bel problema, da un bel rospo e da una bella palla di piombo al piede. Ma Don Paolo, dell'Italia. Don Paolo, lei è un religioso, su. E cosa vuol dire? Io sono un cittadino italiano. Vabbè, ho capito. Che trema per le condizioni del proprio paese in cui lui con le sue scelte l'ha messo. Vabbè, comunque, scusi, ma la Chiesa dovrebbe togliergli il battesimo o qualcosa del genere? Perché non fa nulla la Chiesa, dato che lei... No, la Chiesa, per esempio, potrebbe fare una cosa, togliere il titolo di nobiluomo a Letta, che è stato il suo sodale. Perché è nobiluomo. Il suo prosseneta, insomma. Come, in che senso prosseneta, scusi? Vabbè, lasciamo perdere perché sarebbe il compagnucci, quello che gli apriva e chiudeva le porte, insomma, era il suo magnaccino. Ma no, era quello che gli copriva tutte le vergogne con tutte le foglie di fico possibile ogni volta che questo ne combinava una. Ma con le donne? Non è in grado con le donne, dice lei? ma non solo con le donne, ma anche con le porcate che faceva con le varie leggi, e l'altro andava in Vaticano a ma lui lo moderava sempre De Letta. Beh, certo lo moderava. È stato nominato nobiluomo di Sua Santità, che dovrebbe togliere questa nomina. Certo, diciamo. Ma come sì, certo che dovrebbe toglierla, perché una figura così non può essere un nobiluomo del Papa. Hai capito, Parenzo? Ma dove sei finito? No, io ti sento, ma ho capito. Sei sparito dalla circolazione. No, io parlavo, ma non mi sentivi evidentemente. Ero curioso di questa definizione di Don Paolo, che l'ha definito magnaccino, che è carino, cioè, non è proprio un magnaccio, è un piccolo magnaccio sostanzialmente. Certo, perché fa finta di fare la parte del cardinale e la parte della prostituta, insomma. Scusi un attimo, Don Paolo. Letta sarebbe metà prostituta e metà cardinale. Sì, è metà l'una e metà l'altra. Ma come? Gianni Letta, la definizione è così. Don Paolo Farinella. Ho capito, lei dice sodale di Berlusconi, per lui Berlusconi è una sorta di peccatore, di mostro, eccetera. No, sai che sia peccatore è un problema suo. Sì, beh, a lei interessa. Che sia impresentabile, che sia indegno, che sia orribile è un problema nostro, purtroppo. Ma lei è un prete. Un prete non può avere la sua opinione, un prete può avere la sua opinione, Parenzo, scusa. Un prete non so se può dire che fa proprio schifo Berlusconi, non perché so no, può. Come non lo può dire? Uno può dire. Può dire che fa schifo, no? Certo che può dire un prete. Non chiediamoglielo, non lo so. Ma scusa. C'ha 18 kg di cemento di pronta in faccia. Di 18 kg, diciamo. Non sappiamo nemmeno quale sia la vera fisionomia, la vera faccia, dice lei. È un po' truccato, certamente sarà orripilante come lo è adesso, perché è tutto artefatto, tutto falso. Vabbè, orripilante, perché lei dice svegliarsi dal letto, dice orripilante. Ma lei, scusi, lei la darebbe l'ostia a Berlusconi, la comunione? No. Come dire, se si presentasse davanti a lei Berlusconi in chiesa, non succederà mai, non succederà mai. Dovesse accadere, lei che farebbe? Ah, io non gliela darei. Ah no, eh? Ah, no. Perché? E nemmeno non... Ma guardi, farei una distinzione. Sì. Se viene una persona qualsiasi, sì, di cui io so che non potrebbe fare la comunione, sì, però se viene davanti a me, io sono obbligato a dargliela. Sì, sì. Perché non posso dare un giudizio, diciamo così, però questo per una persona normale, qualsiasi, certo, ma certo. Per una persona pubblica, sì, per una persona pubblica, sì, a parte che lui non potrebbe farlo e non dovrebbe farlo, sì, per una persona pubblica il problema è diverso. Perché non può fare la comunione? Perché nel momento in cui io gliela do, sì, posso diventare complice, oppure posso diventare, come dire, passarci sopra. E per una persona pubblica, prima deve fare dei gesti. Sì, sì, altrimenti deve niente comunione. Deve fare delle scelte che niente. Devono essere evidenti e pubbliche. E poi, e pubblici. E poi... Forse poi la comunione. Poi se ne parla. Hai capito, Parenzo? Ho capito veramente che gli stavamo sulle balle questo Berlusconi. Certo che mi sta sulle palle. Dove vuole che mi stia? Che ne so. Volevo usare un linguaggio poco curiale. Vabbè, ma comunque è ancora là in campo che detta legge, ha visto, no? Cioè, ancora lì che chiede il governo. Certo che no, lui non chiede il governo. Lui vuole l'immunità. Vuole l'immunità totale, vuole la garanzia di non andare in carcere, vuole salvarsi dai processi, è questo che gli preme. Hai capito? Vabbè. Sarebbe disposto anche a mandare D'Alema al presidente, al Quirinale, alla presidenza della Repubblica. Che per lei sarebbe una disgrazia assoluta, D'Alema. Certo che è una disgrazia assoluta, sarebbe proprio la fine del mondo. Scusi un attimo, Don Paolo, per concludere, ma esiste secondo lei la cricca gay in Vaticano? Certo che lì è il covo dei gay. Ma no, come il covo dei gay, Don Paolo? Sì, è il covo. E il capo è il chi è? Il capo chi è di questa cricca? Guarda, è uscito un libro, Sex and the Vatican. Sì, adesso lo dove c'è la cronaca di quello che avviene lì dentro. Che ma il capo di questa... Alla fine del mese di aprile esce un mio libro. Sì. Vaticano, Dio è altrove, dovrebbe essere questo il titolo corsaggiatore. Ottimo. Però forse lo cambiano, perché non so se hanno anche il coraggio di non hanno le palle. Di mettere questo noi titolo. Ce l'abbiamo e la richiameremo. Grazie, Don Paolo, a presto. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai, ai, mi ha ha beccato, ai ai mi ha beccato. Grassa, grassa, due o tre giorni prima della condanna, Marcello Dell'Utri parlava di Grasso. Sono stato il suo allenatore di calcio. Io conosco Grasso da quando era un bambino. Ed era un ragazzino delizioso, ma io ho 10 anni più di lui, quindi amico no, era il suo maestro, maestro di calcio, era il suo allenatore, sì. Io ero della Bacigalupo, la famosa Bacigalupo. Grasso giocava, era un giocatore straordinario, bravissimo, era un centrocampista. Le Iene alle prese con i parlamentari, caro Parenzo, ormai è un classico, eh? Ormai è un classico delle Iene, è, diciamo un po' ripetitivo, però ci sta sempre, eh? Ci sta sempre. D'altra parte non è che uno si inventa chissà che. Mascherano questa ignoranza crassa che alberga. Sì, devo dire, hanno beccato il povero Selva, che però ormai Gustavo è un ex deputato. È un ma non ex... c'è più adesso, poverino. Gustavo, ma sì, 87 anni, vabbè. Ma perché torturano il povero Selva? Ma sì, ma poi Selva che cazzo ce ne frega di Selva? Ma non è neanche più in Parlamento, Gustavino. Ma sì, ma infatti... Però Pizzarotti è quello dell'ambulanza, sì. È quello dell'ambulanza, quello che salì sull'ambulanza per andare a ospite alla 7. Bravo. Pizzarotti, qui siamo alla. Pizzarotti, basta, Pizzarotti. In una Kabul devastata, l'università cresce ancora. Dov'è Kabul? In Iraq. Vado avanti? Sì. Sicuro? Proviamo. Medvedev a Cipro, la UE come i Soviet. Medvedev chi è? Che vuole? No, adesso era il ruolo preciso, come dire, non ve lo devo dire io. Ma chi è sto Medvedev? Ho detto, Commissione Europea, poi adesso, dove nella Commissione Europea ve lo lascio dire a voi. Ma quindi uno della Commissione Europea? Sì. Ma quale Commissione Europea? Medvedev, ma come diavolo si chiama, dai, su. Medvedev, dai, come diavolo si chiama, Pizzarotti, amico mio, dai, abbi pazienza. Titoli del TG3, poi grande sorpresa, titoli del TG3, rimanete attaccati. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Bersani, la situazione del paese è drammatica, ci vuole un miracolo. Giovedì al Quirinale è riunito il vertice PD, Renzi non c'è. Le consultazioni del leader PD, sindacati, governo subito ad ogni costo, no al voto, i commercianti, le aziende al collasso. Berlusconi propone ancora il governissimo con Bersani, premier, Alfano vice, la replica non scherziamo ed Angelino non ci tengo. La borsa trema, voci di un nuovo declassamento dell'Italia da parte di Moody's, se Milano chiude in rosso a -2,5. Passa il piano per Cipro, salvi i depositi sotto i 100.000 euro sugli altri, prelievo del 30%, l'Europa è un modello per tutti i paesi. La Corte d'Appello di Palermo condanna a 7 anni l'ex senatore PDL Marcello Dell'Utri per concorso esterno in associazione mafiosa. Omicidio Meredith, il PG della Cassazione annullare la soluzione di sollecito e ad Amanda la sentenza d'appello concentrato di violazione di legge e illogicità. Zanzara! Andrea Romano, scelta civica all'ultima parola, venerdì, sentite cosa dice su D'Agostino, D'Agospia, scatenato l'uomo di Monti, di Rigor Montis, sentiamo. Io non riconosco alcuna autorità morale a un buffone. Lei faccio dire quello che vuole. Dire. Io, alcuna autorità morale a un personaggio. Se ho chiesto l'intervista, posso ovviamente commentarla. Alcuna autorità morale a un personaggio di quel tipo che gestisce un sito pornografico che vive spalando fango sulle persone alimentando il cinismo di questo paese. Eccolo il pornografo, colui che alimenta il cinismo di questo paese. Vai. Roberto D'Agostino, come stai? Ha ragione. Perché ha ragione? Come ha ragione? Beh, pornografo, dai, non c'è niente di male. La pornografia non c'è niente. Piantra, dai, diventi YouPorn, ma ti rendi conto? YouPorn è il più grande sito del mondo. Ma anche buffone. Corruttore di costumi. Anche YouPorn. Ti ha detto anche buffone, Ti ha detto anche buffone. Quello non va bene. Quello, no? Quello, vabbè, ma quello resto sul porno ci possiamo... No, ma a me mi ha colpito il fatto che sono io. Uno dei mali del paese. Che vuoi ora, fare? Ora, dopo un anno e mezzo di, diciamo, di non governo da parte di Monti e compagnia, no? Ci hanno ridotto, no con le mutande all'incontrario, ma ce l'abbiamo io in testa le mutande, perché ci vergogniamo. Il male è D'Agostino. Il male sono io, capito? Ma poi non ho capito, adesso ho detto, a me non so di dire, D'Agostino ha la posizione che ha su Monti, ma non è quello il punto. Ma perché non si può chiedere un'opinione all'interno di un programma a Roberto D'Agostino su come vanno le cose in Italia? Perché l'opinione di Roberto D'Agostino deve essere, come dire, no, inferiore o di minore rilevanza rispetto a quella di Andrea Romano? C'è questo, che l'informazione che faccio tramite questo sito ha una particolarità, che è il linguaggio. Il linguaggio è importantissimo, perché il linguaggio è quello che noi viviamo. Certo. Il linguaggio è quello che ti dice, per favore, ecco com'è la realtà. Dato che questo paese con la lingua italiana, che la lingua italiana serve solamente una cosa, diceva Flaviana, a leccare i gelati, allora la uso anche per arrotondare la realtà. Se uno apre i giornali la mattina, per capire qualcosa, poverino, si deve leggere tutto quanto il pezzone per capire qualcosa. E poi alla fine dice, vabbè, ma non lo potevo scrivere in maniera italiana, tranquilla. Sono gente che ha sempre usato la lingua solo per nascondere, essendo i giornali. Ma perché Andrea Romano ce l'ha con te, così tanto con te? Andrea un'altra volta aveva detto qualcosa contro di te, non mi ricordo in che occasione. Cioè, fissato, quello dici per conto di Montezemolo? No, sinceramente, guarda, io Andrea Romano è veramente un caso, diciamo, no? Come dice... Casumano, Casumano. Ma pensa, uno che era... un portaborse di Massimo D'Alema, no? Sì. Sinistra. Sì. Dopo un po', guarda caso, trova lavoro, cioè trova ospitalità come autore, come giornalista, indovina dove? Dove? Alla Stampa. Sulla Stampa. La Stampa, dove, chi c'è dentro la Stampa? Montezemolo. Guarda caso, lui finisce in Italia Futura, che è questa sorta di club Rotary inventato dallo smonte Zemolano. Sì, come dici tu? Bene, si fa questo, si passa da D'Alema a Montezemolo. E poi a Monti? Poi a Monti. Adesso a questo punto, che è entrato pure nel Parlamento, non so come ha fatto. Si sono messi bene con i posti, sai? Cioè, lì basta. Adesso alla fine, durante, è sicuro un posto come strappa biglietti su qualche treno italo, trova poi. Però ti faccio sentire una cosa, Roberto, prima di lasciarti, che dov'è che devi andare, al manicure, che dove devi andare? No, mi aspetta il pedicure. Il pedicure, dai, su il pedicure. Infatti ho detto, guarda, non so, tra Andrea Romano e il pedicure forse. È meglio il pedicure, hai ragione, è meglio il pedicure. Però ti faccio sentire una cosa che forse ti è sfuggita ai giorni scorsi di Andrea Romano, perché fa parte di quella lunga fila di politici ormai che dicono, ecco, ma non mi avete preparata là dietro, e andiamo su con sto Andrea Romano. Per favore, adesso chiariamo una cosa, questo signore, dopo la figuraccia, lo posso dire, di merda, che hanno fatto con i due fucilieri. Vabbè, che dovrebbero fare? Non è che si può nascondere. Dovrebbero nascondere. Ma non è che non può parlare. Vanno ancora in giro a dare degli altri del pornografo, gli vanno a dire che è un buffone, capito? Pensa a quei due poverini. Cazzo, io immagino cosa passa nella testa di quelle due persone, trattate come pupazzi da Monti. E Monti che ha fatto? Monti ha scaricato Terzi. È possibile che il presidente del Consiglio non sa? Perché non ci ha messo? Perché non ci ha messo degli esteri? Perché non ci ha messo lui? Da Vigliacco. Da Vigliacco, io lo dico qua, non dico buffo, dico Vigliacco, perché non può dire ai giornali, io non ne sapevo nulla. Ma come, se è presidente del Consiglio? Ma non so, poi una cosa del genere, che vai a toccare equilibri internazionali, ma ti pare che non ne viene discussa nel Consiglio dei Ministri? Ma che se incontro, che fanno? 3-7 col morto, che fanno questi? Aspetta un attimo, ti faccio sentire Andrea Romano, che fa parte di ormai di quella lunga schiera di politici, che dice, oh, io con la politica ci ho rimesso un sacco di soldi. Senti. Personalmente, a proposito di questioni personali, io sono appena entrato, ci ho già rimesso dei soldi perché prima facevo dei lavori che non posso più fare. Non quindi te lo l'ha ordinato il dottore. No, ma infatti sono contento di averlo fatto, sono molto, e lo sapevo anche prima. Adesso va bene tutto, caro Andrea Romano, io non ho niente contro. Ma ho portato via pure il lavoro. Dai, su. Poi diventato deputato. Ma non si può piangere così subito, pensa, dai. È diventato deputato distruggendo Fini e Cassini. Pensa sulle spalle di chi sono andati a finire. Ma poi uno che dice adesso ci ho rimesso, ma aspetta, a parte che manco ha iniziato, dice forse in questi mesi hai rinunciato a quali lavori, ma che vuol dire? Bah. Ciao, guarda, caro. Devi portare pazienza, guarda. Ciao Roberto, vai dal pedicure, vai dal pedicure. Che c'è, Parenzo? Io devi no, voglio dire solo ad Agostino questo, che ci sono persone che si formano, che formano la loro gioventù sui testi di Kant e di Hegel. Io mi sono formato con Mutande Pazze, che è uno dei capolavori del ma cinema. Ma veramente? È la mia formazione. Vabbè, è un leccaculo di professione, Parenzo, ricordami questo. Guarda che Mutande Pazze è un cult. Aveva anticipato veramente 20 anni certo. De Bunga Bunga, però ricordati che è che cominciai non capisci un cazzo di cinema. No, però ricordati che Parenzo lecca culo. Di cinema, perché di politica ci capisci qualcosa. Ma dai, fammi intervista. Vai con Parenzo. Dov'è Parenzo? Sta a casa sua al Cesso. No. Ma guarda che sul fatto del su Mutande Pazze io mi vergognavo di farlo vedere a mio figlio, dico sì, no, sì. È una cosa è così. Invece poi ci hanno fatto, ma non hai idea di quello che ci hanno fatto quando hanno scoperto che anche Berlusconi aveva visto Mutande Pazze, No, c'è una scena che sarebbe da mandare anche alla radio, adesso gliela segnalo, guarda, io a gliela mando, che è stupenda. Raul Bova? No, quella col che quale scena? Io ho scoperto Raul Bova, io una colpa che ho io. Ecco, questa è vera, altro che Dagospia. Ciro porno è vero, colpa ed aver lanciato nel cinema Raul Bova. Ce la racconti un'altra volta, grazie, vai da pedicure, pubblicità. Addio, ragazzi, ciao. Forza. Io amo l'Italia come noi, dove c'è la storia. Datemi il testo, vi prego, datemi il testo. L'inno di Magdi, ex Cristiano Allam. Io amo l'Italia. 800240024, questa è la Zanzara. Cosa vi faccio ascoltare? Donna Assunta Almirante. Berlusconi dovrebbe occupare il Parlamento, sempre numero uno. Ancora adolescente. Che dovrebbe fare Berlusconi secondo lei, Donna Assunta? Dovrebbe partire tutto questo pubblico e occupare il Parlamento. No, come fece la a capo io. Una specie di marcia su Roma. Come sì. Ma che sei tu, Parenzo? È certo, è il mio pezzo in onda. È certo, è certo che sono io. Dovrebbe fare la marcia su Roma, come sì? Ma gliel'hai detto del busto di Almirante o no? Però si è accorta dopo. Quando mi ha riconosciuto dalla voce, ehi, il cretino, ha detto. Lasci stare mio marito, un cretino, si è accorto, ha realizzato dopo. Di una statua cosa se ne fa uno? Beh, certo, quello è vero, dipende poi. Statua poi. Scusi, signor Grillo, ma perché lei protesta contro il web, contro i troll dei web adesso, di quelli che vanno dentro il web, signor Grillo? Me lo spiega? Hanno invaso la rete, mi vogliono sputtanare, ma non ci sono riusciti. Non ci riescono perché sono morti tutti gli uomini di Squinzi, si sono scatenati nella rete contro di me. Ma che c'entra Squinzi? Scusa. Gli uomini, uno con un Squinzi. Ah, lei dice che è stato Squinzi. Lei dice è che... stato il signor Squinzi, questo nome è Squinzi. Prima c'era il signor Bombassei, che hanno mandato in Parlamento, ora c'è il signor Squinzi che mi ha attaccato nella rete. Ma non che ne sa che nella rete non servono più le fabbriche. Ma perché vuol sapere delle industrie, delle fabbriche? Inquinano. Ho capito, ma il paese deve produrre, deve andare ma avanti. Ma non si deve produrre niente, uno deve rimanere a casa, decrescita, la decrescita. Uno sta a casa. Vabbè, ho capito. Si alza la mattina, deve anche muoversi piano piano così non consuma energie, beve dell'acqua, mangia delle carotine, beve il piscio, non servono le industrie. Ma è tutto finito, un modello di sviluppo morto, morto. Dillo delle nazioni a pace e regole. Siamo qui, ci ha chiamato il signor Diego Volpe Pasini, Diego. Oila. Che c'è, che è successo? Com'hai questa urgenza? Voglio dire, perché... l'ex Cristiano. Ah, perché tu hai lavorato anche col signor Cristiano Allam. Io ho fatto un bel periodo della mia vita, quando hai lavorato pure per hai lavorato anche per Magdi sì, Cristiano per dire in cambio di qualcosa con su un obiettivo che era una manifestazione. Vabbè, allora quando fu rapito padre Bossi. Vabbè, ma tu ci credi a questa no, ma questa è l'ennesima volgare, vergognosa posizione di un personaggio che vale meno del suo nome e cognome e delle vocali e delle consonanti che si comprerebbero in un adesivo, perché è uno che sfrutta le opportunità e le occasioni esclusivamente per visibilità e obiettivi suoi. Adesso, cioè, ma secondo te, scusa, ma dai, pulpito, scusa, non è vero che vuole andare via dal Vaticano? Poi, a parte che non capisco cosa significa, cosa vuol dire che lascia la Chiesa? Non è mica un uomo di Chiesa. E perché lo fa allora? Perché lo fa? Lo fa perché ha bisogno di visibilità, ha bisogno di tornare visibile, ha bisogno di avere la scorta, quella super che ci costa centinaia di migliaia di euro l'anno. Beh, questo è grave quello che dici, però, tu dici che lo fa per riavere la scorta. Ma lei non si può. Ma leggi il testo di quello che ha pubblicato oggi sul giornale, che se la prendi di nuovo col mondo islamico non si sa. Sì, ma togli motivo. La radio là, sei in viva voce, togli, no, che no, la conosci. No, c'ho un ritorno scena. Vabbè, insomma, secondo te lo fa perché rivuole la scorta super? Perché vuole tornare al centro, vuole essere la vittima, vuole essere minacciato, minacce che poi Dio solo sa da dove venivano. In che senso? Sono false le minacce? Ma figurati che se i musulmani si preoccupano di Magdi, ex Cristiano Allam, che dice delle idiozie in Italia. Vabbè, ma scusa, ma che se, mica se le farà da sole le minacce, scusami, Diego. Beh, insomma. Ma come insomma? Minacce in lingua araba che appaiono su siti stravaganti e che poi vengono utilizzati in Italia, voglio dire, non è che uno sta lì a cercare sui siti arabi le minacce che vengono fatte a Magdi Allam. Evidentemente qualcuno ha interesse che si evidenzino, e qualcuno, se non mi stai dicendo che lui praticamente si costruisce le minacce da solo? Si costruisce, è un termine. Io penso che nessuno abbia né l'interesse né il bisogno. Vabbè. Allora, ho capito, adesso non ti sente più. Andiamo a Aurelio dalla provincia di Milano. Aurelio? Pronto? Dica, sì. Sì, senta, volevo... Buonasera a tutti intanto. Sì, poi dica. Volevo dire due parole su Grillo e su coloro che l'hanno votato. Dica pure. Ma ecco, su Grillo volevo dire che effettivamente ci ha rotto un po' le palle. In che senso le ha rotto le palle? Senso, In che senso, scusi, ma Aurelio? Lui credo che lui pensi di essere l'unto del Signore. E che dovrebbe fare, che dovrebbe fare? Ma dovrebbe sicuramente, se è vero quello che dice, che vuole cambiare tutto, secondo me dovrebbe perlomeno dialogare, ascoltare con chi propone e dice di... Ma scusi, io non capisco una cosa. Si dà la responsabilità ai grillini di essere irresponsabili. Ma sin dall'inizio, adesso con tutti gli errori, con tutte le contraddizioni che ci sono, per carità, ma sin dall'inizio hanno detto che non facevano accordi con nessuno, né col PDL ovviamente, né col PD, né con nessun altro partito. Adesso lì si vuole attribuire da parte del Partito Democratico la responsabilità di non fare un governo. Ma di cosa stiamo parlando? Massimo da Milano, Massimo. Massimo! Ci sono! Vada, forza! Ecco, cosa devo dire? Che ne so, ha chiamato lei, amico, ho chiamato io? Abbia pazienza, è roba da matti. No, diciamo che il tema era quello... Ma il tema, non c'è tema! Parenzo, aiutami tu, che oggi sei morto! Su! David? Ma dove cavolo sei? Ma io sono di... Ma reagisci, no? E reagisci! Sto interloquendo con te! Massimo, su, dai! Io qua sono, ma chiami anche Parenzo. Ma poi chi è Parenzo? Scusa, io ti seguo ogni tanto, ma chi è Parenzo? Parenzo, dai, su, non fare il cretino, Massimo, dai, non faccia il cretino, dai. Vabbè, insomma, chi è Parenzo, secondo lei? Chi è Parenzo? Giuro che non lo so. È non peggio so. Per lei, se non lo sa. Che cosa segue a fare, ma se non sa? Scusami. Fammi capire. Sì. Ho capito, Davide, o segui o non segui, o ti sa fare... Fammi capire questo qui che chiama e poi dice dimmi. Ma come dimmi? Hai chiamato tu? Ma infatti, Massimo, hai chiamato... calda con lo zucchero, con la zucchero dentro. Massimo. D'accordo. Avevo chiamato perché avevo sentito prima l'intervento di Don Paolo, è giusto? Sì. Mamma mia, che lentezza, e allora, ragazzi. Volevo dire che pur essendo ateo e non avendo una grande simpatia per la diciamo per tutto l'apparato, mi è sembrato abbastanza coraggioso, forse anche estremo rispetto a chi invece segue la Chiesa. Che dite? ma che ne so, Massimo, vada al diavolo. Adriana da Milano, cioè, interviene per dire, ha ragione Don Paolo, che dite? Ma chi se ne frega? Adriana da Milano. È sempre il solito argomento. Sì. Io sono una cattolica e sono indignata da quello che ha detto Don Paolo. È tutto lì. È indignata, bene. Indignata. Bene. Buonasera. Francesco da Viterbo. Ma ho capito, indignata. Ma che ne so, Francesco da Viterbo. Su, Francesco, vada, sì. Io niente, dicevo solo dei mummificarlo come Chavez e Don Paolo. Chi? Che mettono nelle segrete stanze del Vaticano. Ma perché vuole così male al signor Don Paolo Farinelli? Ma questo è rimbicillito, questo è da far ricoverà, questo è da ricovero. Perché? È da ricovero, però. Ma che, ma sentito che ha detto? Ha votato Vendola, ai matrimoni gay, covo dei gay al Vaticano. Questo è proprio da rinchiude proprio. Vabbè, e la chiave. È un prete così un po'. È un prete un po' sui generis, un prete così. Poi un'altra cosa. Aspetti io un attimo, aspetti, no? Francesco, sì. Aspetti. Parenzo, una notizia. Avanti, vediamo un po' che mi ha appena chiamato, per quello era un attimo di stato, sul cellulare. Ho capito, però. Il signor Genchi. Vabbè. Scrivendo semplicemente, chiamami. Ma io dico, non lo so. Ho capito, ma che vuol dire? Cioè... A chi tu chiamami, Genchi? Vabbè, chiamami, vabbè, Genchi, chiamami. Allora, ci ha informato che Genchi, che no, ovviamente le persone non conoscono, ha chiamato Parenzo e poi ha risposto chiamami. Tutti conoscono vabbè. Gioacchino Genchi, che è il grandissimo... Va bene. L'uomo dell'inchiesta Why Not con The Magistris. Sì, certo, non c'è dubbio. Avanti, Francesco. Volevo ricordarti, caro... Mi do del lei? Volevo ricordarti, ma sì, caro, ma faccia quello che vuole, sì. Sì. Faccio quello che mi pare, là. Che com'è dopo le elezioni non chiamate più Crosetto e Bocchino? Te la ricorda l'ultima intervista del Bocchino da lei? Sì. E chiamateli questi personaggi famosi, chiamateli, che famoturizzate. Ma perché lei dice come lapide sopra, dovremmo mettere una lapide. Sì, una lapide, un saluto, un caro saluto a questi signori che sputavano veleno, no, che non c'hanno manco il voto della moglie, chiamateli. Ma sputavano signori, veleno chiamateli. Su chi? Su Berlusconi. Beh, Crosetto non ha mai sputato sul nostro veleno, premier. No, beh, nostro premier no, e non è più premier, le segnalo. Vabbè, è sempre premier, vedrai. È sempre premier per lei. È sempre premier. Lei è molto berlusconiano, eh? Molto, berlusconiano. Di più. Comunque, riguardo a Don Paolo, ecco, sì. Se potete intercedere presso Papa Francesco per fare che cosa? Possa essere rinchiuso nelle segrete stanze del Vaticano. Beh, mi pare complicato. Mi pare complicato. Ma questo comunque è un pazzo, solo voi lo riuscite a intercettare questo per rilasciare dichiarazioni del genere. Ma a noi i pazzi piacciono, lei lo sa. Well now, little mosquito, there must be. Well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So I'm nature's mosquito. And that means I'm gonna go bite, sir, yes. Bene, con noi Massimo Ciancimino in diretta da Palermo. Buonasera, come stai? Buonasera, Cruciani. Come andiamo? Andiamo avanti. Il processo come va? Il processo, diciamo, bene. Siamo riusciti a portare alla sbarra quelli che erano tutti gli imputati, me compreso. Vabbè, questo poi riprenderà a maggio, no? Mi sembra. A maggio, no? Ci sarà la prima udienza, sì. Vedremo. Ma sei sereno, sì, Massimo. Sicuramente un attestato di credibilità a sì. Quello che era l'impianto accusatorio fatto dalla procura, che era basato anche ampiamente su mie dichiarazioni. Tu volevi essere rinviato a giudizio? Io anche... volevo essere condannato. Voglio essere condannato. Come vuoi essere condannato? Perché? Perché voglio stabilire un principio. Poi la trattativa c'è stata anche attraverso me, per cui credo che nel riconoscimento... Ma scusa, tu sei accusato di concorso esterno, se non sbaglio, no? Poi il fatto, ovviamente... Risponderò di concorso esterno, non credo di aver agevolato nessuna associazione, di fatto soltanto mio padre, risponderò poi di quello che è. Va bene, però io fondamentalmente volevo essere rinviato a giudizio. Però vuoi anche essere condannato, mi hai detto. Condannato vedremo. Beh, come questo mi hai detto. Qualcosa discuteremo in dibattimento. Però scusa, perché vuoi essere condannato? Non ho capito. No, condannato no, ho detto volevo essere rinviato a giudizio. Ho festeggiato il rinvio a giudizio. Sono stato criticato per aver abbracciato Salvatore Borsellino. Sì, ho visto. Ho festeggiato quando, è la prima volta, credo che un imputato festeggia quando ottiene il rinvio a giudizio. Senti, volevo chiederti una cosa, nella diatriba che si è aperta anche a tratti un po' ridicola tra Grasso e Travaglio, tu con chi stai? Ma io leverei il tratti, mi sembra un po' tutta ridicola, credo che... Cioè hanno fatto una figuraccia tutte e due, secondo te? Ma no, non capisco come ancora, alla luce di quella che sono le esperienze delle telefonate in diretta, la seconda carica dello Stato possa fare uno scivolone di questo tipo. Io sono d'accordo con te, al 100%. La storia delle telefonate in diretta, le ultime, cosa hanno insegnato? Che chiunque telefona ne esce massacrato. Da Berlusconi, tu dici a Masi, no? A Masi, cioè l'istinto così repentino della seconda carica dello Stato di prendere il telefono e sfidare a uomo, insomma... Travaglio. Un confronto immediato, Travaglio, mi sembra qualcosa che lede la funzione e la personalità. Poi il personaggio è quello che è. Cioè, in che senso il personaggio è quello che è? Il dottore Grasso ovviamente è un personaggio che secondo me, esprimo il mio giudizio, è stato sempre un po' nella terra di mezzo, colui il quale insomma l'ha fatto, come si diciamo, siamo sempre, ha beneficiato di tante situazioni. In che senso ha beneficiato di tante situazioni, scusa? Sicuramente è un procuratore un po' paraculo, un po' paraculo, tu dici? Sì, io un po' trolevo, io direi che è un po' bel paraculo. Bel paraculo, cioè ha ragione Travaglio quando dice che lui non ha mai affrontato la questione dei rapporti tra Stato e mafia? Cioè dei rapporti tra politica e mafia? Io posso dire soltanto, io a differenza di Travaglio, che sicuramente avrà più contezza di metti su quelle che sono le enormità delle mancanze del procuratore Grasso, posso parlare soltanto quello che è l'operato di Grasso nei miei confronti. Grasso per 12 anni non ha mai fatto una domanda, a mio padre, su quella che è il tesoro, mi ha iscritto per riciclaggio soltanto alla morte di mio padre, sempre per il famoso tesoro, di contro, mentre reggeva la procura, ha compiuto degli atti da procuratore che sicuramente oggi, grazie anche al processo della trattativa, saranno ampiamente discussi. Difatti, vi do un'anteprima, Grasso sarà uno dei testi miei richiesti al momento della procura. Cioè lo chiamerai in tribunale? Sì. E perché? Napolitano, Grasso. Perché? Sì, Napolitano lo sappiamo. Perché anche Grasso? Napolitano ancora l'ha chiamato Borsellino al processo di Caltanissetta. Il mio lo farò io. Ce l'avevi annunciato già che... Sì, che che dovrà rispondere di alcuni atteggiamenti che io valuto impropri per la carica che lo stesso Grasso aveva all'epoca. Nel momento in cui vengo io processato per riciclaggio, è in corso a Palermo un processo per la mancata perquisizione del covo. Sì. Non mi è stata fatta nessuna domanda, nonostante si sapeva della trattativa, era già venuto fuori a dichiarazione di Brusca. Sì. C'è stato un atteggiamento omissivo. Mi sembra chiaro che ci sia stato un atteggiamento del tutto dettato da uno strabismo investigativo pazzesco in quella che è la storia della società del gas. Ho sempre detto che a oggi mi meraviglio come il sostituto di Grasso, il dottor Sciacchitano, che ricopre oggi la carica, non mi ha ancora querelato dopo tutto quello che ho dichiarato su di lui. Ma tutto questo, un attimo solo, Parenzo. Tutto questo che cosa vuol dire? Vuol dire che secondo te negli anni in cui Grasso era procuratore capo a Palermo non ha voluto indagare in una certa direzione? Non ha mai voluto. Cioè, lo strasbismo investigativo di Grasso è stato palese. Grasso è stato un investigatore a senso unico. Cioè? In che senso? Andava dove sicuramente poteva andare, dove non gli conveniva toccare certi argomenti, ovviamente ha eluso in maniera, secondo me, esemplare delle indagini. Perché stabilire che la società gas di Ciancimino, così recita sentenza, è cresciuta grazie all'apporto di Bernardo Provenzano e ne sequestri soltanto la metà e l'altra metà la lasci libera perché la figlia è sposata con il dottor Sciacchitano, questa è una non mancanza, questa è malafede. Beh, questa è una cosa grave, ovviamente, però qui non possiamo discutere nel merito, però ma voglio dire, non è grave, ne ha parlato Travaglio, lo ha sempre detto Travaglio. Non scordiamoci che Grasso, il procuratore, che quando fanno la perquisizione a casa mia, nella famosa cassaforte alla Daura, all'interno c'è papello, soldi in contanti, pizzini e robe varie. Mi possono dire che Grasso non ne sapeva niente? Sappiamo bene come l'ufficio del procuratore è un ufficio impersonale. Di fatto risponde sempre il procuratore capo. E dunque? E dunque, sicuramente ci sono state delle anomalie che verranno chiarite. Poi perché lì non andò fino in fondo a quella vicenda? Ma non lo so, sicuramente si è circondato di collaboratori poco attenti. Cioè, dov'è che non voleva? Che cos'è che non voleva toccare? I rapporti tra... I fili dell'alta tensione. I fili dell'alta tensione. I fili che se tocchi vai a finire ad Aosta e non vai a finire a Presidente del Senato. Ah, ho capito. Cioè, non ha mai voluto toccare i poteri veri. Cioè, riesci a toccarli, vai a intercettare i Stambecchi, come ha detto qualcuno. Come ha detto Berlusconi, come ha detto Berlusconi. Però ricordiamoci che oggi è la seconda carica dello Stato, cioè chi sta parlando, il signor Ciancimino, è imputato in un processo, ha interesse a portare Grasso in tribunale, perché ma questo, questo non è cosa, ho sentito no, Parenzo, la seconda Parenzo parte. Sta dicendo tu sei accusato di reati, quell'altro la seconda carica dello Stato e ha interesse a portare Grasso in tribunale. Vabbè, ma non è che uno sei imputato non può dire delle... No, ma lui ci deve difendere, chiaro. A me non interessa, cioè, né, io credo che l'interesse di un imputato è accertare realmente come si sono svolti i fatti. Ovviamente questo deve prescindere dalle cariche. L'ho fatto ricorrendo per Cassazione. E quindi lo porto in tribunale. Ma è indegno il presidente, come presidente del Senato, secondo te? No, non mi permetterei di dire questo, insomma. Non esprimo giudizi di questo tipo sul ruolo di... Però si è sempre tenuto lontano dai guai, tu dici? Sì, sicuramente è uno che riesce a fare carriera, insomma. Riesce cioè a fare... è uno che con l'antimafia ha fatto carriera? Mi sembra che... Ah, tu sei dell'idea, come Travaglio, che lui ha fatto fuori Caselli, anche se la cosa è molto controversa, eccetera? Ma sicuramente ha goduto di una legge contro persona, ma ora c'è da essere un po' obiettivi. Al momento della votazione credo che la votazione era 3-3, come si sarebbe concluso nessuno lo sa al plenum. Sicuramente è stato eliminato con una legge che poi è stata dichiarata incostituzionale il principale concorrente. Io non parlo di nemici o amici. Credo però che tra i due magistrati, no, Caselli e Grasso, cioè quello che rappresenta secondo te la vera antimafia, chi è? Caselli o Grasso? Ma credo che l'azione di Caselli sia stata molto più incisiva, è un dato di fatto. Aver emarginato procuratori come Scarpinato, come Ingroia, non è stata una bella situazione. Comunque, pure Grasso, qualche successo l'ha ottenuto. Non mi permetto di dare giudizi su quello che è la seconda carica dello Stato. Io parlo del Grasso procuratore. A me quello che qualche risultato l'ha ottenuto pure da procuratore, cioè, altrimenti non è che arriva. Sicuramente. Però tu dici tenendosi lontano da alcune cose. Io non lo accuso, io lo ritengo responsabile di uno strabismo e di un copertura nel mio processo nei confronti del suo vice, oggi capo della DNA, dottor Sciacchitano. Dottor Sciacchitano. Una società che è cresciuta all'ombra della mafia, come recita sentenza, per me va sequestrata nella sua interezza. E invece non lui ha favorito il suo vice. E se dico qualcosa di sbagliato, sfido Grasso a querelarmi e ne risponderò nelle sei qualcosa che ho denunziato. Sì. Massimo, senti, io l'ho denunciato alla Procura di Catania per competenza. Tu alla fine che cosa hai votato? Alla fine ho visto un mondo di stelle. Ho sognato un cielo di stelle. Tutte e due, Camera e Senato. Sì, alla fine Ingroia non l'hai votato, diciamo la verità. Per cui tu fai il tifo per un governo PD Grillo oppure non te ne frega niente? Ma credo che in questo stato di confusione uno faccia fare il tifo, secondo me. Fa il tifo, vorresti. Tifo per gli italiani. Credo che secondo me in questo momento bisognerebbe fare il tifo non per il governo, bisogna fare il tifo per gli italiani. Questo è scontato però, dai. Ho capito, però vorresti un governo, vorresti che Grillo cedesse un po' e facesse un governo con il PD oppure deve rimanere coerente con la sua idea? Sinceramente non conosco. Non te ne frega niente, non te ne può fregare, hai altri problemi, vabbè, lo capisco. Credo che in questo momento mi fanno ridere un po' tutti in questo momento, smacchio il giaguaro, Torniamo tra un attimo a riparlare però della vicenda Grasso, la 7, è una cosa pazzesca, diciamo la verità, insomma. Non credo che se ne parli nei bar, Parenzo, di questa vicenda, però fa parte delle cose di potere. Hanno pensato bene di mandarlo da voi in Valle d'Aosta. Prima inchiesta che farà? Sugli stambecchi del Gran Paradiso e anche uno stambecco pentito che ha rilasciato le prime confessioni. È certo che mi sta sulle palle, dove vuole che mi stia. Adesso io, Parenzo, si può dire, per carità, non voglio essere quello che critica ogni volta, eccetera, ma tu dimmi, si possono passare 3 giorni a chiamare Saviano, la conf non so che cosa e i sindacati, oggi anche Don Ciotti, con tutta la bontà del mondo, ma perché ti stupisci? Non ma capisco. Don Ciotti amico mio, ma chi doveva chiamare Annarella, guarda, alla fine arriveremo pure ad Annarella, ha detto con tutto l'affetto e l'amore che ho per Annarella, ma chi doveva chiamare Annarella? Ciotti vai a chiamare per fare il governo, chiami Don Ciotti, ma su figurati, dai picco, dai, incestiato. E diciamola tutta, dai, Don Ciotti. Fosse per te, avrebbe dovuto mettere i rapporti col Parlamento la signora Annarella, che diceva vaffanculo testa di cazzo. Ma che c'entra di Annarella adesso? Perché mi estremizzi la cosa? Io sto dicendo, devi fare il governo. Hai passato tre giorni prima della direzione, domani inizierà con i partiti, per carità, non è grave, a chiamare le famose parti sociali, il forum dei giovani. Qui c'è una sola cosa da fare: ce l'hai i numeri al Senato, sì o no? Ma scusa, ma mi sembri non sciocco, ci sono questi numeri, basta, ma è chiusa, è finita. Che il suo obiettivo ti stupisce di te, che ti stupisce che tu ti stupisci. Ma no, perché, ma ho capito. Oddio, la strategia è semplice. Dice, noi dobbiamo trovare dei nomi che siano, come dire, al ma di no, sopra. Ma perché Don Ciotti ha già detto che non vuole fare il ministro, dunque non è che sta cercando appunto i ministri. Ma il tentativo è che tutta una, è tutta una pantomima, no? Perché tu vai a fare la conferenza stampa con Don Ciotti, che è il simbolo della lotta libera, eccetera. Ma scusa, è coinvolgere gente. Che faccia presa sui grillini, no? Che possa attirare i grillini, possa dire: beh, questo qua parla con Saviano. E beh, cioè deve prendere voti. Cioè, non turbo, va con Verdini a fare le trattative con Verdini per fare il governissimo. Parla con Saviano. Dopodiché, caro Parenzo, le chiacchiere stanno a zero. Qui lo sai che bisogna fare. Bisogna andare al Senato a beccare i voti. Allora, siccome bisogna andare al Senato a beccare i voti, i grillini ti mandano a fare in culo ogni secondo. Esatto. Allora, lì ci sono i leghisti. Adesso è iniziata l'operazione di lisciare il pelo ai leghisti, no, con Fassina. Con Fassina mi fanno ridere. Fassina, un'intervista a Repubblica, forse oggi, me la sono ritagliata qua, eccola qua. Sì, sì, allora, sì, sì. Col Carroccio il discorso è diverso. Il Carroccio e PDL non sono lo stesso partito. Il mio ragionamento di... ma come? Avete passato una vita a dire che la Lega è il peggio del peggio? Ma dai, su, dai! No, ma infatti è molto più strano corteggiare la Lega che non puntare una strategia di spaccare i grillini, come hanno fatto con l'operazione Grasso. Spaccare i grillini, spaccare i grillini, spaccare vabbè, i grillini. Vabbè, ho capito, stai calmo. Scusami, mi sono un attimo esaltato a spaccare i grillini. Vabbè, un attimo solo, siamo ancora con personalità con... forti, va bene, abbiamo capito. Dire al signor Ciancimino. No, volevo capire una cosa, oggi c'è stata la condanna di Dell'Utri, Ciancimino. Ecco, ho sentito in televisione. Beh, sì, ha sentito in televisione, insomma, qualcosa era lì collegato per capire come andava a finire questa cosa. Scusi, ma che vuol dire questa condanna? Che secondo lei anche Berlusconi va ripescato da questa cosa della mafia? Ma non credo, a parte che questo è un dispositivo, bisogna aspettare quelle che sono le motivazioni. Vabbè, quello è chiaro. Per cui non conosco sinceramente gli atti, non è il mio processo. Non mi interessa proprio, insomma, credo. Però secondo lei che il fatto che Dell'Utri fosse uno, cioè, mezzo mafioso era abbastanza chiaro sin dall'inizio, senza nemmeno il processo, o no? Ma credo che i processi vanno fatti a tutti, no? Sui sentito dire e sulle cose credo che non si può predefinire la mafiosità di qualcuno. Credo che tutte le persone hanno diritto a essere, insomma, che la loro colpevolezza venga sancita da un processo, anche Dell'Utri con i suoi pro e con i suoi contro, il tutto deve essere ancora sancito dalla Suprema Corte. Allora, io rimango dalla mia idea, Parenzo, quando uno diventa Presidente del Senato, in questo sono d'accordo con quello che diceva prima Ciancimino, non può telefonare, adesso stasera da Formigli, per carità, va benissimo da Formigli, però uno a un certo punto diventi Presidente del Senato e in televisione ci vai poco, non è che vai quello da quell'altro e quello, e dai, su, ma non è possibile, dai ragazzi, è la seconda carica dello Stato, è bello per la televisione, certo che è bello, no, per la televisione, dire, su questo non c'è dubbio. Non lo vedrei bene dalla signora Clerici, non perché è la Clerici, oppure non lo vedrei bene in quei programmi per come è animali. Fatto Grasso, vero, ma Ciancimino, andrebbe pure dalla Clerici, gli piace molto questa cosa, no? Vabbè, devo dire che è piaciuto molto da Floris. A lei è piaciuto molto da Floris? Sì, con quell'aria che aveva. Col 4... parlava di cosa avrebbe detto al Presidente della Repubblica. Col 4-4-2, dice. Esatto, lì credo che è stato molto espressivo. Vabbè, lei è molto ironico su questo. No, sì, però voglio dire, quando inizia, cioè, mi dica la verità, è uno un po' Banesio da questo punto di vista, il signor Grasso. Ma chi non lo è, ovviamente, credo che, insomma, aspirare a diventare la seconda carica dello Stato così all'ultimo. Ma potrebbe diventare Premier, per lei sarebbe una iattura? Ma non lei stava dicendo una cosa, l'ascoltavo con attenzione. Oggi Premier, non Premier, Parenzo, Smacchi Giaguari, contatti Don Ciotti, Saviano, Alitizzetto, mancano i numeri. Mancano i numeri, qui manca solo la matematica, manca solo il divino, capito? Chiama il divino Delma e poi è finita. Esatto, dai, poi può consultare chi vuole, insomma, il problema è quello, i numeri non appattano. Grazie, grazie a Massimo Ciancimino, grazie. Arrivederci. Saluti. Caro Parenzo, saranno qui credo il giorno 28 A fare cosa? Giorno 28, giorno 28, cioè fra qualche giorno. Beh, qui live, un concerto a Milano, prima vengono qui, cari Ridillo. Ah, che meraviglia, Ridillo. A cantare live per noi, grande sigla della Zanzara, Ridillo. Susi da Bologna, buonasera Susi. Pronto, buonasera, signor Cruciani, come va? Bene, ah, ma questa è Susi, la mitica transessuale della... nonché prostituta, detto con tutto rispetto, sai che ho un grande rispetto, eccetera, della zona di Ferrara, o sbaglio? No, sbagli, a 14 parcheggio San Lorenzo, prima dell'uscita di Vasto Sud, a 14 Mara Bocca Golosa. Ah, mi scusi. Questa è la radio del signor Squinzi, però non so se è il caso di dire signora Golosa, perché ma che gliene frega, Susi. Scusi, signora Susi, può ripetere il suo luogo di lavoro? Sì. Vasto Sud, parcheggio San Lorenzo sulla A14, fra Vasto Nord e Vasto Sud. E che c'è scritto lì sul muretto? Niente, c'è un parcheggio dove si fermano i miei amati camionisti. Sì. E io poi, sai, dal 2 facciamo più 2 facciamo 4, no? Cioè, che vuol dire dal 2 più 2 facciamo 4? Sì, no, non ho capito. Praticamente, se portano il sovraccarico, io glielo scarico da dietro, ovviamente. Oh, scusa, come? Dal camion. Ah, dal camion. Non dal ho camion. Capito la metafora. Beh, ma non la metafora era abbastanza chiara, diciamo. Che vuol dire la dicitura? Allora, un po' per questi grillini, no? Ah, che è successo con i grillini? Che ci vuole raccontare? Allora, io sabato sono stata in un locale a Napoli. In un locale? Che faceva in un locale a Napoli? Il closing, ti dico anche il locale. Sì, io certo. Un locale gay, in poche sì. parole, sì. Ci vuole una tessera per entrare tutto ciò il quanto. Sì, tutto allora, ciò il quanto. Allora, solo che questi grillini non si fanno vedere, non parlano, non fanno nascosti qui, si nascondono dietro sti cioè, computer che io sono ignorante, non ci so andare neanche cioè, su i deputati, internet. Dice lei, si nascondono. Sì, si nascondono dietro a questi computer perché non vengono a parlare in faccia. E poi li vedi nei locali gay che vanno nelle camere dark e si mettono in certe posizioni e fanno i frocioni e poi vanno a parlare in televisione. No, però scusi. In televisione dietro un computer. Però ma scusi un attimo, Susi, cerchiamo di approfondire bene la questione. Lei mi sta dicendo che ha visto in televisione un deputato grillino che poi frequentava certi locali? No. Sì. Sabato sono stata in un locale gay e l'ho riconosciuto tramite quando hanno fatto quelle presentazioni sì. In web. Ma, sì. Ma sì, però sì, scusi, sì. Chi era questo deputato gay che lei poi ha incrociato nelle dark room? Ecco, è quello, io mo il nome, se mi aiutate posso anche beh, farlo. Sa, so 160... Che sappiamo noi. Con la barbetta curata, scura di pelle, sì. Con la barbetta curata, e come stava nella dark a fare la frociona? Ma scusi, lei però... Ma perché dice così? sta dicendo che stava nelle dark room a fare la frociona, cioè... Ma non è possibile, dai. Perché è no? È possibile, l'ho visto con i miei occhi, lì si va tutti nudi lì dentro, in mezzo al fumo. Però scusi, signora Susi, come fa a sapere che era un deputato grillino, scusi? Però scusi, signora Susi, ci sono tante persone con la barbetta così, lei proprio ha riconosciuto... No, non sono scema, ho 33 anni, guarda ma... che li conosco, la persona se la vedo la rivedo, ma dove, ma era dove... proprio lui, ma dove... l'ho chiamato anche venerdì scorso in diretta, però poi non potevo perché dovevo lavorare, c'era un cliente, già sì. Lo volevo dire da venerdì scorso. Scusi un attimo, ma questo qua è un deputato di Napoli, della zona di Napoli, oppure l'ha visto in qualche altro locale, cioè a Napoli, dove l'ha visto questo qua? Allora, io l'ho visto al cruising. Il locale si chiama Cruising a Napoli. Cruising. A Napoli. Okay. Vabbè, allora adesso faremo le nostre indagini. Però, scusi, ho una piccola curiosità, signora Susi, no? Abbiamo sì. detto bene? Come mai il suo epiteto è Susi Bocca Golosa? Questo giorno vabbè, non capisco. Ma scusa, perché devi chiedere queste cose che sono perché così? Perché nella mia bocca ci entrano le fragoline golose. Sono sempre golosa di qualcosa di buono. Se ce l'hai anche per qualcosa di buono, ben venga. E viva Berlusconi! Ma come viva Berlusconi? Che almeno si facevano i festini, come dicono, almeno fa vivere. Bene Berlusconi, lo voglio conoscere di persona. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, retourne chez toi, Dell'Utri prima della condanna. Cari ascoltatori della Zanzara, è transitato qui alla Zanzara nella giornata di venerdì, vendredì, sussurrando queste parole su Grasso, non doveva chiamare, sicuramente quelle di Travaglio sono delle palle. Sentiamo questa, palle di Travaglio che è un megafono di ingroia. Perché se accusa Travaglio e cose allucinanti come fa Travaglio, e questa di Grasso sicuramente è una palla di quelle grossissime, Travaglio è il megafono di ingroia, ancora non l'abbiamo capito, scusate. E allora ingroia era nemico di Grasso e continua Travaglio a fare il lavoro di ingroia. Tanto oggi Dell'Utri ha detto: non sono stato io a introdurre la mafia a Milano, Mangano era bravo. Però non molla, non molla sulle sue teorie, è coerente fino in fondo. Ma è un grande, io lo trovo un grande Dell'Utri, un grande lo definì un eroe. Sì, lo definì un eroe, sì, un eroe perché, attenzione, non un eroe in assoluto, un eroe perché secondo lui non si era piegato a quello che volevano i magistrati, cioè le accuse di accusare Berlusconi, cioè non è un eroe in assoluto. Tutti ricordi perché Mangano finì a Milano a proteggere Berlusconi, questo è il punto vero. Sì, per carità, sì, certo, certo. Nicola da Bari. Buonasera Luciani, buonasera Parenzo. Dica Nicola. Niente, volevo solo, io sono un iscritto al MITAF e al movimento di Beppe Grillo già da un anno a questa parte. Mi sono cancellato da poco perché devo dire che è un movimento davvero allo sbando, nel senso che secondo me la maggior parte della base, almeno quelli con cui parlo io, avrebbero voluto che Grillo desse la fiducia a un governo da tenere dalle palle, come si suol dire, e imporgli la fiducia, però imporgliela in cambio di leggi per il paese, tra cui anche la legge elettorale. Il modo che sta facendo, cioè andare lì e protestare solamente, mi ha fatto pentire a me di aver dato il voto. Ho capito, ma lei aveva tanti altri. Nicola, scusi un attimo, ma lei aveva capito male, però, cioè, no? Cioè lei aveva capito male tutto il programma di Grillo, quello che voleva Grillo, cioè non c'era scritto da nessuna parte. Ho capito male, ma non sono l'unico, questo è il problema. Non sarà stato l'unico, ma tantissimi avevamo capito male allora. Che cosa avevate capito? Che andava lì a fare la stampella del Partito Democratico, scusi? No, la stampella no, ma un po' come hanno fatto in Sicilia, no? Dove hanno imposto il Crocetta. Ma è diverso, ma è diverso, Nicola. Lì il problema è un altro, che Crocetta è votato direttamente dal popolo. Sì, è vero, cioè, è diversa se la lo sono elettorale. Se lo sono trovato lì Crocetta, i grillini, ed è evidente che io come tanti altri, ripeto, che sento amici così, che non lo voteremo più se continua così, questo è certo, avremmo voluto, dice va bene Bersani, vuoi la fiducia, una fiducia al tempo, facciamo le riforme per il paese, basta, non è detto, cioè io mi alleerei anche col diavolo pur di fare il bene del paese, non posso dire no a chiunque solo perché è politico, è stato politico. Scusi, cioè, ma l'obiettivo del al di là di questo, l'obiettivo del 5 Stelle è quello di prendere il 100%. Lei l'ha sentito quello che diceva? Io mi auguro che non arrivi mai, perché ho capito, anche se però l'ho votato con convinzione, io l'ho votato con convinzione, ma non voglio un paese che sia al 100% che voti una sola persona. Beh, 100%, sai, ci sono pericoli in questi casi. Ma certo, no? Anche 100%, no, ma lei ha ragione, ma il 100% è un modo di dire, no? Cioè, 100%. Ma anche il 51 per me sarebbe pericoloso. Beh, guardi, che il 51% per un partito che è pericoloso, è normale, cioè se un partito riuscisse, magari ci fossero due partiti, uno che piglia il 51 e uno che piglia il 49, forse l'Italia sarebbe più governabile. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco, como una muchachita, baila col ritmo bueno. Ma non ti pare incredibile, caro Parenzo, che deputati e sindaci, parlamentari e sindaci del Partito Democratico, dopo che il Partito Democratico, non solo piemontese, ma il Partito Democratico nazionale, ha sempre sposato la TAB, vadano a manifestare insieme ai grillini, che da parte loro sono coerenti con quello che hanno sempre sostenuto? Hai ragione. Cioè, vadano a manifestare dicendo adesso, beh, la TAB bisogna ripensarci. Mi pare una buffonata clamorosa. Una sono buffonata costi clamorosa. Assurdi, bisogna assolutamente fermare quest'opera. Ho sentito io il sindaco Emiliano, che abbraccio fortissimo, però gliel'ho detto anche in trasmissione una volta in diretta, l'ultima parola, caro Emiliano, il tuo partito ha sempre sostenuto la TAB e anche tu non hai mai detto delle cose contrarie. Bravo. Adesso, perché devi trovare l'accordo con i grillini, alzi il dito a dire che quest'opera fa schifo, quando che è uno spreco ragione, di soldi. Hai ragione, dai, su. Hai mi duole dirlo perché mi sanguina il cuore, ma hai perfettamente ragione, è una buffonata. Non si torna indietro per lisciare il pelo a 30.000 anche meno persone che vivono lì nella Val di Susa, dove devono solo ringraziare che passi la cosa, almeno c'è qualcosa, perché non c'è un cazzo, se no, che passi una roba super veloce. E è incredibile, tant'è che mi pare che anche no, Fassino, ma si può anche discutere, cioè uno può discutere Fassino oggi, sì, mi pare, ma non solo Fassino, altri deputati ed esponenti del Partito Democratico. Io poi dico una cosa: si può anche essere contrari alla TAV, uno ci può anche ripensare, sì, ma non oggi. Ma non oggi. Di che parliamo? Ma a me certo. Mi sconvolge anche un'altra senatrice, la cara Laura Puppato del Veneto, che non si è mai occupata della TAV in vita sua, mai, e che oggi se ne esce dicendo la TAV, la commissione d'inchiesta sulla TAV. A parte che le commissioni d'inchiesta bisognerebbe abolirle, basta commissione d'inchiesta, basta, chiuso, giù la Claire sulle commissioni d'inchiesta che non servono a un cazzo. E poi la commissione d'inchiesta sulla TAV per scoprire che cosa? I costi eccessivi, chi ci ha magnato, chi non ci ha magnato. Se ci sono degli sperperi, ci penserà la magistratura. Se ci sono delle mazzette, penserà la magistratura, no? Certo. Abbiamo con noi un senatore del Partito Democratico per capire come la pensa, anzi, noi lo sappiamo già. Stefano Esposito, buonasera. Buonasera a voi. Come andiamo? Vi sto ascoltando in maniera molto divertito, devo dire. Senta, Esposito, ma come si mangia al Senato? Com'è lì il ristorante? Non si mangia al Senato, l'hanno chiuso. L'hanno chiusa, Parezzo. Ma non l'hanno riaperto? No, solo panini. Solo panini, no, ma è, solo panini. È alla Camera che sono andati quelli dei 5 Stelle a mangiare. Solo panini al Senato. Oppure no, ma lo riaprono però. No, l'hanno chiuso perché in realtà non conveniva più con le nuove regole. Esattamente. Esattamente. Dunque la convenzione non c'è più. Perché come fate per mangiare? Perché ti interessa questa cosa qua del Senato? Ma mi interessa, come fate per mangiare? Ma che ne uno va al bar, vai al ristorante? Ci affolliamo nella splendida buvette assaltando i piatti freddi e i panini. Ma è buono? È decoroso. Decoroso, diciamo, decoroso. Io l'ho battezzata buffet tristezza, ma va bene lo stesso, insomma. Beh, vedi? Scusi Esposito, ma lei è incazzato o no per questi del PD che sono andati lì a fare gli anti-TAV con i grillini? Ma non sono incazzato, sono dispiaciuto per loro. Perché? E sono dispiaciuto perché si fanno fare una figura di merda al PD, ma questo purtroppo mi pare lo sport preferito ormai, ognuno pensa ai fatti propri, alle proprie carriere, alla propria visibilità e non ci si occupa della casa, ma tanto va bene così. Della ditta, dice lei. Non no, ma è la ditta, non vorrei togliere l'imprimatur a Bersani. Io sono rispettoso dei ruoli, quindi la casetta. Perché diciamo, Bersani però non dice nulla? Perché non conviene dire nulla in questo periodo? Cioè, rispetto a, per carità, Emiliano è una figura anche sui generis, però fa il sindaco di Bari, tra l'altro, di Bari. No, perché è giusto sottolineare, no Esposito, fa il sindaco di Bari. Di Bari, sì, non della Val di Susa. Cioè, non di, che ne so, Genova. No, è il sindaco di Bari ed è uno dei promotori del comitato CITAV per la Napoli-Bari. Ah, addirittura? Sì, è come promotore insieme a Vendola e a molti altri sindaci pugliesi della Napoli-Bari, alta velocità. Però si vede che dalla ricorsa al grillismo gli deve produrre qualcosa e quindi viene poi in Val di Susa a 1400 chilometri a fare in trasferta demagogo e ognuno ha le sue, diciamo, fa le sue valutazioni. Io non so più che cosa, sono dispiaciuto per lui. Ho scoperto che anche abbastanza volgare quando cerchi di interloquirci ti manda a fanculo e vabbè. Diciamo che è abbastanza sanguigno, direi anche. Ma io sono peggio di lui, caso, quindi. Senatore, in questo caso, mentre in genere gli amministratori dicono not in my backyard, cioè non nel mio giardino, lui dice nel mio giardino sì. E in quello degli altri no, quindi è anche generoso in questo, no? Perché dice da me no, sì che la faccio la TAV. Da questo punto di vista è un caso di studio, credo che bisognerà, se l'università di Oxford che ha fatto uno studio su questo tema, credo che lo potrebbe prendere in considerazione come un caso di specie. No, ma capisce però il paradosso, che cioè, lui lei dice un caso psichiatrico, insomma, diciamo la verità. No, non mi permetterei mai, non vorrei però mai. Però pensa solo ai cazzi suoi, questo si può dire. Ma sì, io guardi, le dico questo, siccome tutti stanno scommettendo sul fatto che si tornerà a votare presto e nel Partito Democratico è già ripartita la corsa alle prossime primarie, Emiliano so per certo che sta preparando la sua candidatura alle primarie per la premiership, povera Italia, e quindi ha bisogno, diciamo, di fare alcune operazioni, pensa di coccolarsi l'elettorato grillino venendo in Val di Susa e chissà se ha finito la Val di Susa, magari adesso scoprirà che ma andrà anche a Livorno contro il rigassificatore, insomma cercherà tutte le... Tranne i rigassificatori pugliesi però, quelli no. Quelli vanno bene, diciamo, quelli vanno bene. Questa cosa è straordinaria perché nel comitato CITAV Napoli-Bari è bellissimo, però devo dire. Guardi, non le racconto una favola, le dico esattamente quello che ho che ho letto, e lui è un attentissimo curatore di questo comitato, sì. Giustamente, io dico giustamente. Certo, perché vuole le grandi opere là al sud. Vuole, cioè, le grandi opere, vuole per i suoi cittadini un'opera che oggi, se voi provate a toglierla ai cittadini che vanno da Milano a Roma, sì, in treno e hanno abbandonato l'aereo, vi seguirebbero col forcone. E che invece il caso Puppato è strano. Adesso un ascoltatore mi ha mandato una foto, che per carità non significa niente, però della Puppato in campagna elettorale via Twitter. Via Twitter, stupenda. Le donne viaggiano ad alta velocità. Lei davanti ad un treno con la cosa rosa, è stupendo questo. L'ho visto. È un freccia rosso. È un freccia rossa, sì, è un freccia rossa. Ma la Puppato, io devo dire, ce l'ho al Senato, ma sì, per ragioni che mi saranno abbastanza chiare, facciamo fatica a interloquire. Cioè, in che senso, scusi? Nel senso che io il primo giorno sono andato ad offrirle, a regalarle, sì, il mio libro. Sì, quello ProTab. Tra l'altro è gratuito, quindi non costa niente. Cioè, quello nessuno, in cui elenca tutte le ragioni per cui bisogna fare la TAB. Sì. Mi ha quasi schifato. Quindi, addirittura, insomma, tipo sì, la Bindi, tipo i grillini con la Bindi, insomma. Sì, è proprio, ma quasi schifato. Allora ho detto, boh, evidentemente non è il caso, non vuole imparare niente, o meglio, imparare, non pretendo che lei impari dal mio libro, però prendere un'altra versione dei fatti forse non le farebbe male, visto che vuole fare anche lei la demagoga in trasferta. Perché non si iscrivono tutte e due 5 Stelle direttamente, cioè in particolare la Puppato? Mi sembra che ormai sia su quelle posizioni, o no? No, perché guardi, oggi poco fa ho letto una ANSA, sì, in cui si è candidata anche alla Presidenza della Repubblica. Quindi, dice troppo poco, dice lei. Sì, alcuni miei colleghi mi hanno detto, guarda Stefano, non perdere troppo tempo, perché la Puppato si candida tutto, però quando ho visto l'agenzia, è uscita proprio pochi minuti fa, prima che voi, sì, mi chiamaste, e si è candidata in una trasmissione radiofonica, sì, a Presidente della Repubblica. No, Radio 2, lo possiamo dire, sì. Radio 2, sì, e dicendo... ho saputo che qualcuno mi candida, sono veramente onorata. Io non ho capito chi la candida, secondo me si è candidata lei stessa. Beh, però vabbè, su questo. È legittimo. Scusi, è legittimo. Un attimo, mi dica la verità: se il PD dovesse allearsi con Grillo, cosa che non accadrà perché Grillo non vuole, ovviamente, però se dovesse allearsi con Grillo, lei che fa? Lascia il PD? Ma no, non per l'alleanza. Bisogna vedere quali sono i contenuti, però guardi, questa è talmente una cosa impossibile per chi conosce, sì, minimamente, dico almeno gli eletti del Movimento 5 Stelle sul proprio territorio, sì, sì, io conosco i miei. Come sono? Estremisti? Ma non è un problema di estremismo, sono convinti di essere il bene, sì, e tutto il resto è il male, e quindi non ci puoi parlare. Tant'è che l'altro giorno io ho fatto quella provocazione, stupenda, sapendo esattamente... Stupenda, vogliamo sentirla un attimo, la grande provocazione del senatore Esposito, che ho apprezzato moltissimo, perché molti l'hanno presa seriamente sul blog, dicendo, guardate, c'è uno che offre sui blog e su Twitter. Molti hanno detto, ecco, il senatore Esposito dice, voi votateci la fiducia e noi diciamo no alla TAV. Ma in realtà era una provocazione. Chiunque conosca bene la politica sa benissimo che Stefano Esposito del Partito Democratico è uno che da sempre sostiene la TAV, ovviamente avendola studiata, eccetera, eccetera, e ha fatto una provocazione andando proprio dove erano i parlamentari del 5 Stelle. Sentiamo. Facciamo un accordo, no, qui. Togliamo la TAV e votate la fiducia? Mai. E allora vedi che è tempo perso. Io sono pronto a farlo qui l'accordo. Il Movimento 5 Stelle vota la fiducia e io dico che la TAV si può chiudere. Lo facciamo questo accordo? E allora vedi che non siete credibili. Non siete credibili. Guarda, sto facendo una proposta politica. Voi dite che siamo pronti a votare la fiducia, ma a condizione che non si faccia la TAV Torino-Lione, e io per quanto mi riguarda vi sottoscrivo l'accordo. No, sei tu che stai dicendo che sei tu che è uno dei tanti punti. Ma scusi, ma ha rischiato qualcosa andando là, no, senatore? No, guardi, le posso dire questo: io in questi anni in cui mi sono occupato di TAV mi hanno mandato i proiettili, mi hanno messo un pollo morto davanti alla porta di casa. Se voglio andare a sciare in Val di Susa devo avvertire la questura, che naturalmente non avverto, vado in Val di Susa a sciare addirittura senza preoccupazioni. E questi vogliono fare il governo, alcuni del suo partito vogliono fare il governo con questi. Ma guardi che io la provocazione che ho fatto ieri, e devo dire vi sono grato per questa opportunità per poterla spiegare, perché come dice lei sui social network qualcuno l'ha presa pure sul serio, ma non mi conoscono e quindi va bene così. Vabbè. E l'ho fatta ad uso e consumo di quei parlamentari o di quei dirigenti del mio partito, la Puppato, una su tutti, sì, che pensano di poter scambiare qualcosa col Movimento 5 Stelle per farci il governo. Sì, sì. E ho voluto semplicemente dimostrare, detto che non stavo parlando con Beppe Grillo, ma parlando con i parlamentari che però contano anche senatori. La mattina si alza, legge quello che dice Grillo e lo riportano, quindi sì, sostanzialmente non sono andato molto distante, per dimostrare a tutti che è inutile cercare quella cosa lì, perché non esiste, sono persone che pensano, come dicevo prima, di essere il bene, tutto il resto è il male. E però quindi, lo dica anche al suo segretario, l'ha detto al suo segretario lei, senatore Sposetti? Ma il mio segretario, guardi, che è meno fesso di quanto tutti pensano, lui ha ben chiaro che con quel col Movimento 5 Stelle non si può costruire un'alleanza di governo, giustamente li sta sfidando e spero che lo faccia con lo spirito con il quale l'ho fatto. Attenzione, io c'è una notizia che viene da Palermo: il procuratore generale di Palermo, Patronaggio, ha chiesto l'arresto per pericolo di fuga dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, condannato a 7 anni. Procuratore generale di Palermo, Patronaggio, è così leggo, il procuratore generale di Palermo, Patronaggio, ha chiesto, non fare lo spiritoso con la casetta sul labbro, la gente deve andare in galera, su adesso, chiede l'arresto di Dell'Utri. Dunque Dell'Utri potrebbe essere arrestato ad Horas, sì, cioè, questo mi dispiace, però uno deve essere sempre, che ci siano gli elementi per, da parte della procura di Palermo, per dire che c'è il pericolo di fuga, non ho ragione di dubitarne. Beh, però io sappiamo che Dell'Utri ha anche una casetta, non in Canada, né quella sopra Canada, l'albero, né sull'albero, ma a Santo Domingo. Però comunque a naso non, devo dire che non mi pare inverosimile che possa pensare di andarsi a godere. Ma lui ha sempre detto di no, però sa, la latitanza di Dell'Utri io la vedo molto strana a quell'età, adesso francamente la vedo molto strana, però sa, quello che uno dice poi non ha valore quando c'è una condanna. Quindi, di 7 anni, della magistratura e dei il procuratore generale di Palermo, Patronaggio, ha chiesto l'arresto per pericolo di fuga dell'ex senatore Dell'Utri, condannato a 7 anni. Notizia uscita però adesso. Non è che lo si chiede via mezzo stampa, lo si fa, non è che lo si chiede. Beh, ho capito, queste sono notizie, non è che la apprende l'ANSA, non è che l'ha detto Patronaggio. Ma guarda, generalmente Può darsi che sia in corso l'arresto. Potrebbe essere in corso l'arresto. Esposito, resti lei al Senato anche nella passata legislatura? No, io ero alla Camera. Scusate. Ah, la Camera, è vero, la Camera. Allora, abbiamo la pubblicità, poi la borsa, però torniamo, perché magari a questo punto cerchiamo di beccare Dell'Utri, perché la cosa è urgente. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Eccoci qui, 800 24 00 24. Dell'Utri, prima venerdì da noi, prima della sentenza, hanno chiesto l'arresto pochi istanti fa. Sentiamo un Dell'Utri, dai. Sentiamo un Dell'Utri prima della sentenza, venerdì qui alla Zanzara, parlava di Grasso e di altre cose. Dell'Utri. Condivido che vuole cambiare le cose, che vuole sfasciare delle cose che sono incrostate da secoli, la burocrazia per esempio, che è una cosa veramente che non si può, i sindacati, ma io guardi, credo che Grillo avrà questa funzione, che sponderà, distruggerà perché poi si possa ricostruire. E c'era nell'intervento di venerdì qui alla Zanzara addirittura un elogio di Grillo: distruggere per ricostruire. Oggi, prima di entrare in aula, dice siamo nella merda. Si sta impantanando da sola, no? Vedremo. Non sta scorrendo, lo sta cambiando un'epoca. Sta cambiando, per ora siamo nella merda, poi vedremo. Siamo col senatore Stefano Esposito, Partito Democratico, sostenitore della TAV, su cui ha scritto un libro, molto dispiaciuto, se non peggio, ma già lo ha detto, per i suoi amici di partito. Amici di partito, colleghi, diciamo così, di partito, che colleghi. Che oggi manifestano contro la TAV, dopo che il partito si è speso in prima persona, anche in maniera pesante, anche mettendo a repentaglio l'incolumità personale, diciamo la verità, perché questa è la realtà. Lei alla fine, Esposito, potrebbe trovarsi al governo con Perino, cioè mi sembra piuttosto bizzarro, no? Per fortuna era incandidabile, era impresentabile, perché è pieno di denunce e condanne, quindi come Grillo non l'hanno candidato, però i suoi figliocci sono simili, diciamo. Cioè i figliocci le intendi parlamentari, dice lei? Sì, ce ne sono un paio che sono proprio figli suoi. Per ma i anche quali quelli sono indagati, eccetera? Anche no, quelli... no, devo dire, da questo punto di vista devo riconoscere che hanno candidato solo persone che non avevano... Però perché dice sono figliocci di Perino questi qua? Sono figliocci culturali di Perino, cioè hanno l'idea per cui... se non la pensi come loro sei uno da battere. Guardi, le racconto questo episodio, se mi permette. L'unico episodio che c'è stato durante la visita al cantiere è stato con Lelerizzo, che a voi non dice niente, ma è il capo di Ascatasuna, a me dice, molto, che scrive anche sul giornale dell'Annunziata, la Huffington Post, insomma, che invece è pluridenunciato, ha avuto condanne, che mi si è avvicinato, lui è uno dei mandanti degli attacchi a quel cantiere, 200 poliziotti feriti e quant'altro, mi si avvicina e mi dice, guardando lo scavo, un giorno ti chiuderò lì dentro e ti smonterò. Beh, ma questo, perché è gravissimo, io l'ho anche messo su Twitter, e lui su Twitter, dopo il mio Twitter, ha scritto, insultare Virano ed Esposito non apprezzo. Ma scusi, questo qua non è insultare. È andata bene che non mi è scappata una testata col caschetto, perché gli avrei fatto un regalo, perché in quel momento ho avuto proprio l'istinto di ficcargli una testata. Poi mi sono... Ma che c'aveva il casco lei? E avevo il caschetto, io rispettavo le regole, sono entrato e mi ha detto che bisognava avere il caschetto. Opportunistiche, la giacchina gialla e il caschetto. Infatti tutti mi prendono in giro per le immagini sul del video con il grillino, perché c'avevo il caschetto in testa. Però che ci devo fare? La regole sono regole, io le rispetto. Ma hai capito, Parenzo? Cioè, questa è una cosa gravissima, quella che è accaduto. No, ma è una cosa molto grave. Cioè, quella non era solamente una minaccia, era una... Non è un moderato questo qui, un liberale. Moderato... Se l'Lerizzo è un moderato, io sono un cavallo da corsa. Scusi, però mi dica la verità. Non mi pare neanche uno liberale di cultura. No, quello no, assolutamente no. A Scatasuna c'è tutto tranne che liberale. Scusi un attimo, però io voglio capire una cosa. Andiamo alle estreme conseguenze di questo ragionamento. Se ci dovesse essere, perché lei dice impossibile, però la politica è fatta di cose strane, un accordo o comunque una specie di fiducia, perché il tentativo di Bersani è questo, cioè Bersani si vuole alleare con Perino, e che io la metto giù in modo brutale, però alla fine è così, cioè si vuole alleare, sta cercando i voti di quelli come Perino. Allora io dico una cosa, lei se succede una cosa del genere che fa? Esce dal PD, restituisce la tessera? Guardi, se nell'accordo con Grillo c'è il baratto tra la Torino-Lione e il governo, le posso garantire che il PD non sarà più il mio partito. Cioè lei va via dal PD? Le posso dire che non sarò il solo ad andarmene in quel caso, ma siccome sono abbastanza certo di stare ancora in un partito di persone normali con la testa sulle spalle, credo che questo... Ho capito, non, però... Dovesse avvenire, lei mi ha fatto la domanda, io le dico che se il baratto che io ho proposto provocatoriamente dovesse diventare, diciamo... Beh, ci sono tanti modi per dire no alla TAV, anche rallentarla, non fare gli atti che bisogna fare, ci sono Guardi, le posso dire, in realtà... Bersani, perché lei prima mi chiedeva perché Bersani non parla, in realtà Bersani ha fatto un anno fa la prefazione al mio libro libro ha la prefazione di Bersani che dice delle cose molto impegnative che sono difficili, diciamo, da scambiare. Però è stato zitto in questi giorni, Ma lo capisco anche, ma sa perché è stato zitto? Perché in realtà la Torino-Lione, di cui tutti parlano dicendo si può bloccare, in realtà non si può più bloccare, per una ragione molto semplice, perché è stata finanziata per intero per i prossimi 12 anni, perché c'è la Francia che è pronta a farci una richiesta d'anni che costerebbe più del finanziamento che ci abbiamo messo, e perché perderemo la faccia, cosa che per la verità abbiamo già perso tante volte in Europa, e ci inseguirebbero, qualcuno ci inseguirebbe col forcone. Guardi, scusi un attimo, Esposito, un attimo, ma sulla TAV voi siete come il PDL sostanzialmente, avete la stessa posizione del PDL? Sì, con il PDL ne ha... Avete la stessa posizione? Vabbè, ma non c'è la stessa posizione, ma con un... Guardi, le posso dare solo un elemento, con una piccola differenza. Adesso la distingo. Le do solo la piccola differenza, se mi permette, che i miei colleghi parlamentari, con i quali io ho avuto anche ottimi rapporti, diciamo, personali, hanno raramente messo la faccia, perché loro si sono molto preoccupati delle minacce che hanno ricevuto. Questo è un elemento che le do, ma perché solo tutti hanno voglia, diciamo, francamente... Però diciamo la verità, su molte cose voi andate più d'accordo col PDL che con Grillo, diciamo la verità. Diciamo che sulla modernizzazione del paese la possibilità di dare una prospettiva, Un attimo solo. Vediamo se Deluti risponde, va. Ah, senatore, se è all'ascolto della Zanzara, risponda, siamo noi. Vogliamo capire se la stanno arrestando oppure no. Segreteria telefonica. C'è il numero privato, è difficile. Martello, su molte cose. Marcellino. Ma che non fare un pigliare per il culo adesso, Marcellino? Ma lo sta andando in galera. Sto drammatizzando. Lui quanti un anni uomo ha poi? 73, 74, come Berlusconi? Un anno di meno, due anni di meno. No, ma devi, giustamente, la trasmissione così, ma anche l'ironia ci sta tutta. Scusi, signor Esposito, stai dicendo sulla modernizzazione del paese, sull'economia la pensate uguale, come dice Brunetta? Beh, no, questo no. Le dico, guardi, onestamente no. 5 anni di governo. Però sulle opere sì. Ma le opere sono investimenti pubblici che servono a questo paese. Sì, no, e generano lavoro. Cioè, io sono contento di pensare allo stesso modo. Se al Senato, viene la richiesta di ineleggibilità per Berlusconi, lei che vota? O è una cosa antiquata, vecchia da superare? Guardi, io credo che non possiamo basarci su una legge del 1957 per fare questa valutazione, però le posso dare una notizia, perché di questo tema se ne continua a parlare. Mi dica una notizia. Guardi, che la ineleggibilità di... Ma anche Onida dice che non si può applicare, dall'altro. Esatto, quindi sono in buona compagnia. È stata fatta nella prima seduta da parte della commissione preposta la verifica della ineleggibilità dei senatori. Sì, sì. Le posso dire che i grillini che hanno tanto sbandierato il tema e erano presenti in quella commissione non hanno detto una parola. Ma qui adesso, oggi? No, nella prima seduta della scorsa settimana. Ah, vabbè, però ancora si deve... andava a posto il tema, cioè non mi pare probabile che questa questione... Sì. E invece l'arresto? Lei lo voterebbe l'arresto di Berlusconi? Guarda, io sono un garantista con tutti, quindi se le motivazioni per le quali viene richiesto l'arresto sono fondate, voterò a favore dell'arresto. E le motivazioni per l'arresto sono tre sostanzialmente. Sì, sì. Vabbè, però questa qua è una risposta, è una risposta scontata, perché in realtà lei sa benissimo che se arrivasse una richiesta d'arresto si scatenerebbe una bagarre politica pazzesca, dunque la questione poi diventa sostanzialmente politica. È per questo che la banalità della risposta però è anche la soluzione al problema, perché sì, noi non siamo un tribunale. Lo so, però sa, il fumus persecutionis da quella parte lo danno per scontato se arriva una richiesta d'arresto per Berlusconi, cioè non è che posso dirle che però le tre motivazioni, pericolo di fuga, inquinamento delle prove, sono abbastanza attinenti al soggetto su cui verrebbe richiesto l'arresto. Quindi uno sicuramente Berlusconi può inquinare le prove, poi bisogna vedere per quale processo, ovviamente può andarsene quando vuole, non c'è in dubbio. Maniera abbastanza libera e quindi da questo punto di vista può reiterare il reato. Se per esempio stessimo parlando della compravendita dei senatori, mi posso permettere di dire che anche su quello è un reato che può tranquillamente reiterare. E l'ineleggibilità non la voterebbe allora? Ma guardi, non mi pare che lo possiamo fare sulla legge del 57, siccome non sono d'accordo con Onida, tendenzialmente non la voterei. Grazie senatore, a presto. Grazie a voi. A presto. Grazie. Emiliano da Bologna, buonasera Emiliano. Buonasera. Dicevo, io capisco che lei c'ha un grosso conflitto di interesse con questi 5 Stelle, perché diciamo la verità non c'è mai stato tanto materiale con lei come negli ultimi tempi, via. Ma qual è il conflitto di interesse? Scusi, non ho capito. Il conflitto di interesse è che lei andando, voglio dire, ora non voglio fare la battuta di Parenzo, andando a votare praticamente si è garantito ospiti geniali per la sua trasmissione, per questi, diciamo la verità, in un mese. Ma se non mi possono vedere, non ci possono vedere già noi. Ma a lei non gli interessa se non li possono vedere, via. E questo è materiale per lei, grazie. In questo senso. Questi in un mese hanno disintegrato qualsiasi record di cazzate della Lega Nord in 15 anni, no? Ma io penso che lei ci potrebbe andare avanti. Se adesso si sono chiusi un po' a riccio, si sono chiusi un po' a riccio. Emiliano, non è una vita facile, le posso assicurare, per me, per chi che lavora con me. Io penso che di spifferi ce ne saranno sempre abbastanza. Ma gli spifferi sono una cosa, noi abbiamo bisogno di voci, non di spifferi. I spifferi li fanno i giornali. Io ho capito che adesso è addosso a Bersani perché c'è. Ma io non sto dando addosso a nessuno. Che la mediazione è impossibile, ma che la mediazione è impossibile è talmente ovvio che è quello che lui sta cercando di dimostrare, spero io. In che senso, no? Scusi? Ma nel senso che l'obiettivo di tutto sto giochino di organizzare le elezioni, eleggere dei parlamentari, eleggere dei presidenti delle Camere, qual è? Qual è? Che un governo. Sì, sarà formare un qualsiasi governo l'obiettivo di sto gioco, oltre che portare ovviamente... Guardi che a me non me ne può fregare di meno. Io noto semplicemente una cosa. Io noto che giudico gli atti. Io trovo ridicolo per delle consultazioni di governo. Credo che sia la prima volta nella storia repubblicana italiana, nella storia repubblicana, credo anche nella storia mondiale, che un presidente del Consiglio incaricato, invece di chiamare subito i partiti e verificare se ci sono i numeri, perché di questo si tratta, giovedì di questo andrà a riferire a Napolitano, chiami uno scrittore anticamorra, nonché collaboratore televisivo di Fabio Fazio, un prete antimafia, per carità, bravo nella sua opera, che è libera e tutto quanto, le parti sociali del più svariate, un sociologo bravissimo, per carità, De Rita, eccetera. Ma di che parliamo? A che serve questa tarantella? A cosa serve? A fare le conferenze stampa, a dire ho ricevuto Don Ciotti perché la legalità, eccetera. Ci sono i numeri in Senato e andiamo a concludere la vicenda. Su, no, Don Ciotti, Saviano, ma che ce frega? Per ora siamo nella merda, poi vedremo. Oh, stasera... Che? Che succede? Ah, la pasta. No, la pasta. È mia figlia, perché stiamo andando adesso tra qualche minuto alla cena della Pasqua ebraica che è questa sera. Ah, Padova, sì, grande appuntamento, la cena della pasta Pasqua ebraica. Grande appuntamento, grande appuntamento mondano. No, Fabio dalla provincia. No, non è mondano, è la Pasqua ebraica, tra l'altro possiamo anche cogliere l'occasione per ricordare il significato profondo. No, non me ne può fregare di meno, per carità, ho detto con tutto rispetto, sai quanto sono vicino al bobolo di Israele, però. No, è una festa che ricorda l'uscita degli ebrei dall'Egitto. Ma non me ne frega niente, dai Fabio, ma la gente non gliene frega niente. Hai capito? Alla libertà. Ma la gente non gliene frega niente che sta ascoltando. Fabio dalla schiavitù alla libertà, dalla dittatura alla democrazia. Fabio dalla provincia di Como. Fatelo tacere, Fabio dalla provincia di Como. Dica. Buonasera, io volevo intanto buonasera a tutti, volevo intervenire. Sì. Riguardo alle persone che hanno votato al Movimento 5 Stelle che poi sono pentiti, io non capisco queste persone come vabbè, ma c'è tanta gente che si pente 5 secondi dopo aver votato, sa, sì, l'hanno votato, esatto. 8 milioni di persone, per cui 6 milioni, esatto. 7 milioni, ma, quanti sono? Per sì, cui, ma sai, soprattutto hanno atteso 20 anni, abbiamo atteso tutti tantissimi anni per avere qualcosa di concreto che fosse espressione del popolo, no? Vuol dire. Tutti sempre indignati, sì. Arrabbiati su, diciamo, le nefandezze della classe politica. Adesso che abbiamo delle persone del popolo in Parlamento. Ma che, diciamo, vuol dire le persone del popolo? Perché gli altri che sono? Le persone della cosa? Delle persone comuni. Infatti, le persone comuni sono tutte persone molto... comuni, Fabio. Tutte sono persone comuni. Non diciamo questa puttanata. Un attimo solo. Chi è questo? Chi è? Marcello, rispondi. Poveretto. Lo so, ma appunto, perché l'ora è grave, la situazione è grave. No, ma mi dispiace, perché poi quando uno va, poi c'è anche una certa età. Però è giusto anche che non voglia rispondere. Ogni tanto è occupato, perché chiaramente starà chiamando lui. No, togliete il numero. Fabio, allora concludiamo. Usare il termine società civile, perché so che a lei non piace, però in quello intendevo quello. Vabbè, allora, ma la società civile, ma sono anche gli altri espressioni, non è che solo Grillo è espressione del vero popolo della società civile, però, tu diciamo la verità, allora, a me queste cose mi fanno impazzire, io ho anche votato Grillo, però... Esatto, c'è un programma, tutti potevano leggere il programma, io qui davanti ho un volantino con 16 punti, ma ne leggo solo due. Sì, mi dica. Allora, uno è riguardo... l'abolizione immediata dei finanziamenti diretti e indiretti ai giornali. Giusto, allora, giusto. Allora, io posso dire, chissà quanti giornalisti... Ci ha anche accusato un signore che si chiama Incerti, di cui però faremo una storia nei prossimi giorni, ci ha anche accusato di avere preso quell'intervista da Radio Luis, noi organo del Sole 24 Ore che viene sostenuto dal finanziamento pubblico. Ovviamente non è così. È in piccolissima parte così, ma la cosa riguarda tutti i giornali, non c'entra assolutamente nulla, cioè, accomunandoci quasi ai giornali di partito, alle emittenti di partito, cosa ridicola ovviamente. Ecco, poi un altro referendum sulla permanenza nell'euro. Grillo non dice che non vuole si può uscire fare dall'euro. In realtà, no. Sì, Grillo dice che vuole dare la parola agli italiani se intendono non si può restare fare, no. Comunque, quindi, vabbè, d'accordo, anche se potenzialmente non si può fare, però lui vorrebbe dare. Vabbè, allora che cosa vuole dire? Scusi Fabio. Ecco. No, poi voglio dire un'ultima cosa, il mandato massimo di due mandati. Va bene, ma adesso non ci faccia l'elenco di quello che sì, vuole no, dire. No, però per dire questo, voglio dire, già questo basterebbe per far capire che non sono persone che vogliono fare la carriera politica, vogliono arricchirsi come hanno fatto tutti vabbè, i politici. Ho capito, non si vogliono arricchire, va bene. Roberto da Pesaro. Sì, salve. Dica. Buonasera, volevo dire che in realtà Bersani, facendo bene i conti, i numeri per fare il governo... Cioè un attimo. Pronto? Senatore Dell'Utri? Chi parla? Sono Cruciani, chi è? Ah no, sono il figlio. Ah, salve, sono Cruciani, salve. Scusami. Ah no, prego, guarda, cioè, adesso tra 5 minuti gli dico che ha chiamato. Sì, digli che ho chiamato e che se vuole dire due cose dopo questa cosa della richiesta di arresto e lo richiamiamo. Ok, glielo dico sicuramente. Chiediglielo, grazie. Va grazie. Bene, prego. Ciao. Non me moleste moschito. Allora Roberto? Non me moleste moschito. Sì, volevo dire, facendo gli auguri al senatore Dell'Utri, che in realtà Bersani per fare il governo i numeri ce li avrebbe in teoria, anche senza rivolgersi al Movimento 5 Stelle e al PDL, perché in Senato esistono vari gruppi parlamentari. Sì, ma è quello che forse tenterà di fare Bersani, cioè l'accordo con i Montiani e con la Lega, però mi pare complicato. No, anche senza la Lega. Lega. No, senza la Lega non si può, non ci sono i numeri. Lega più Monti, allora PD, insomma centrosinistra più Monti più Lega fa credo due senatori di maggioranza. Questa è la storia. Un calcolo preciso che è lo stesso che penso stiano facendo adesso la sinistra, che stanno cercando di coinvolgere i seguenti gruppi. Guardi, ovvero... è così. Guardi, faccia qualche conto, volendo aggiungendo anche senatori a vita, ma anche non. Autonomia a 21 parlamentari. Autonomia ne ha 10, Scelta Civica ne ha 21, Grandi Autonomie ne ha 10 e Gruppo Misto ne ha 12. Sommando questi al PD già si ha la maggioranza in Senato. Chiaramente è una maggioranza teorica. Ma no, non è così, perché dentro quella credo ci siano anche i senatori di Monti dentro quella Ho uno scoop in finale. Dimmi. C'è al mio fianco un membro della Confindustria. Chi è? Che è l'amico che ci ospita a cena, è lo zio Franco. Che ti ma che ci frega a me dello zio Franco? Abbi pazienza. No, no, ma chi è membro della Confindustria? Chi poi? Posso salutare? Scusi, zio Franco, lei è membro della Confindustria, dice Parenzo. Ma sono un membro della Confindustria, ma ormai. Cioè un ex affiliato, un ex imprenditore ormai. No, vero, sono ancora affiliato perché la Confindustria serve per le riduzioni personali in questo momento e basta. Che vuol dire le riduzioni personali, scusi? Perché non c'è più mercato. Ah, allora che serve? E allora aiuta nella nostra agonia. Ah, ok, va bene. Ma lei è lo zio di Parenzo? Scusa? Lei è lo zio di Parenzo, lo zio Franco? Sono il famoso zio Franco, ecco. Lo zio Franco. Non aggiungiamo altro. L'altra parola con cui mi definisce di solito. Ah, va bene, d'accordo. Poi mi spiegherà Parenzo, lo zio Franco. Può ripassare per favore il telefono al signor Parenzo? Ecco, lo passo subito. Grazie. Pronto? Scusa, Parenzo, chi è lo zio Franco? Zio Franco che ci ospita, zio Franco. Sì, ma ho capito, ma di chi si tratta? Ha un'impresa, sì. Marco, vai con lo zio Franco. No, va bene, Giuseppe da Bozzano. Ha un'azienda, sì, un'azienda a Padova. Sì. Perché può avere un'azienda, sei contro le aziende. Sì, per carità, assolutamente. Ha fatto questa denuncia dicendo che le aziende sono in agonia e noi adesso andiamo a cena per festeggiare la Pasqua ebraica e ti diamo un grande abbraccio fortissimo. Bene, aspetta un attimo, aspetta. C'è anche Gabriel, se vuoi. Aspetta che forse c'è che ha preso il timone della grande azienda. Ti saluto. Aspetta, che saluti? Che devi salutare? Aspetta, ma manca un minuto e mezzo alla fine della trasmissione. Un minuto e mezzo. 3, 5. Niente, vabbè. Non ce la facciamo, mi sa. Stefano da Bologna. Sì, buonasera. Io chiamavo per manifestare. Posso? Sì, prego, vada. Per manifestare la mia indignazione da italiano nei confronti di questo atteggiamento di Bolzano per condurre le consultazioni, perché questo cincischiare, questo traccheggiare, questo trascinarsi, oramai come diceva lei prima, ma anche solo che consulti il suo parroco, il medico di famiglia, il suo cugino, e poi ha consultato tutti quelli che non contano niente, dopodiché vedremo cosa si può fare, ma voglio dire, anche lui ha denunciato la drammatica situazione in cui ci troviamo, senza probabilmente rendersi conto che oggi come oggi è lui il vero tappo del problema Italia. Cioè, bisognerebbe che lui avesse. Vabbè, insomma, meno Don Ciotti e più velocità, diciamo. Maurizio da Brescia, per concludere. Maurizio, vada. Buonasera, io volevo dire una cosa al dottor Parenzo, incredibile stasera. Io sono sempre quasi sempre d'accordo con Parenzo, faccio notare. Non ho votato 5 Stelle queste allora, elezioni. Allora, veloce però. Lui ha offeso la Valsusa in maniera incredibile, ha detto che non c'è un cazzo in Valsusa se non fanno la TAV. Mi sembra una roba veramente enorme, nessuno dice niente, ha detto quanto sono 30.000 persone che protestano. In realtà io non ho votato 5 Stelle, sono contrario alla TAV in Valsusa, ma sono favorevole alla TAV per dire Milano-Roma, quindi io non capisco queste incongruenze. Cioè lei dice uno può essere favorevole alla TAV anche tra Bari e Napoli e contrario a quella in Valsusa. Che è utilissima, Milano-Roma è utilissima, andare al sud, Firenze, spostarsi al nord, Torino. Bene, ci sentiamo domani 18:30, ciao. Mi sono formato con Mutande Pazze, che è uno dei capolavori del cinema. Ma veramente? È un leccaculo di professione, Parenzo, ricordati questo. Però ricordati che quello è che cominciai non capisci un cazzo di cinema. No, però ricordati che Parenzo è un leccaculo. Di cinema, perché di politica ci capisci qualcosa. Ma dai.